raccontata a Salvo Denaro, Berlusconi aveva concordato con Tremonti l'annuncio sulla riforma fiscale. L'improvviso dietrofront del ministro dell'economia ha fatto infuriare il premier. E questo scrive Libero, ma anche Il Fatto parla di minacce di dimissione da parte di Tremonti. E rapidissimamente, ormai devo citare le altre cose sulle Coop. Abbiamo già visto il titolo in apertura. Sul Libero andiamo invece a vedere questa questione di Di Pietro, che ieri ha diramato un comunicato dicendo che c'è una manovra contro di lui, delle foto che lo ritraggono con il colonnello allora Mori e Contrada, due persone rispettabilissime, quindi non ci sarebbe nulla di male all'epoca in Sicilia, mentre. E dice: vogliono accusarmi di essere stato un esponente della CIA. Il giornale si diffonde su questo argomento e da molte pagine. Di Pietro trema, c'è un dossier su di lui. Alessandro Sallusti cerca di spiegare la cosa. In quelle carte non sarebbe soltanto foto che circolano clandestinamente, si troverebbero insomma indizi che, se non smontati, dimostrerebbero come Mani Pulite fosse un complotto internazionale, come Di Pietro non fosse il magistrato senza paura e senza macchia che ha voluto farci credere. Eccoci qua, allora ci fermiamo con la replica di Stampa e Regime, ci fermiamo con la rassegna stampa di Marco Taradas, perché è appena iniziato nel Teatro Eliseo di Roma il dibattito, incontro dal titolo Il potere della non violenza, la politica per cambiare, un incontro promosso da Quaderni Radicali e dall'Asino d'Oro Edizioni, che vede protagonista Marco Pannella, lo psichiatra Massimo Fagioli, Emma Bonino. L'incontro è iniziato proprio da pochi istanti, sta introducendo Ilaria Bonaccorsi, che è il direttore di Left. Ci colleghiamo subito in diretta con il Teatro Eliseo di Roma. Conoscevo molto bene il professor Fagioli e quindi Left 2006, il suo ultimo libro. Sono 3 anni oramai che collabora con la nostra rivista, è una collaborazione felice, siamo arrivati quasi a 200 articoli. E tra l'altro, caso ha voluto che tra le mani, per gentile dono dell'editore, avessi un libro su Lombardi, Lombardi e il fenicottero di Carlo Patrignani. E questo libro si è andato a fondere, diciamo, con gli altri due. E pensavo inizialmente di dover comporre queste 3 immagini, no? Queste 3 vite, 3 parole, resistenza, autonomia, identità, che ricorrevano spessissimo in tutti e 3 i libri e in tutti e 3 questi uomini. Battaglie lunghe una vita, vite di battaglie solitarie, coerenti, forti, prassi politiche che si andavano a fondere con le teorie di un medico sulla realtà umana. Era costante, serrato l'invito del professor Fagioli in ogni singola pagina di Left 2006 alla politica, alla prassi, alla nuova cultura politica. Costante l'invito, dicevo, di tornare ad occuparsi di realtà umana. Perché, scrive, se il comunismo aveva fatto l'uguaglianza, aveva però ucciso la libertà della ricerca sull'umano. Invito raccolto oramai un anno fa proprio da Marco Pannella, che pubblicamente ha parlato e proposto questo discorso sulla realtà umana di Massimo Fagioli, inducendo in qualche modo un'accelerazione a tutta questa storia, accelerazione che ha portato a questo incontro di oggi, ma non solo. Poi però, non molti giorni fa, è accaduto che sia arrivata una donna a sparigliare le carte, come al solito, a far invecchiare d'improvviso tutto quello di cui parlavo, tutto quello di cui stavo pensando, tutto quello che stavo pensando. E questo mi ha costretto in qualche modo a ripensare a questo incontro, a rinnovarlo nei suoi temi, nella sua forma. E la donna è ovviamente Emma Bonino. E la notizia è la sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio. Candidatura, come dice lei stessa, a Left, annunciata da tempo. Ci ha raccontato che era tempo che diceva io ci sono, io mi presento, ma che dai primi giorni di gennaio è letteralmente esplosa nelle mani del PD e non solo, ma nelle mani di tutti i media che l'hanno meravigliosamente accolta, no? Direi quasi all'unanimità. Quindi è emersa questa identità femminile molto forte, con una vita coerente, trasparente, che ha messo immediatamente in pensione tutti voi, colleghi uomini, con una vita altrettanto irreprensibile. A quel punto nessuno avrebbe più retto il confronto. E allora, arrivando qui questa mattina, ho pensato che volevo iniziare da Emma, con Emma, ringraziandola per una vita di coraggio, ma anche per questa specifica occasione. Colgo l'occasione per dichiarare pubblicamente il nostro totale appoggio alla sua candidatura e con ogni strumento. E le lascio la parola. Sì, grazie. Grazie Ilaria, grazie del vostro calore, della vostra accoglienza. In realtà di questo dialogo appassionato che è esploso tra di noi, che pure magari provengono da filoni completamente diversi, ed è esploso, professore, con una... con una, come dire, una vostra decisione che probabilmente è maturata carsicamente, non so, ma comunque è esplosa, personalmente mi ha emozionato quando in modo molto deciso, per me inaspettato, ma probabilmente perché avevo guardato superficialmente, insomma, quando vi siete schierati con noi, in particolare sull'ultima difficilissima campagna elettorale, quella delle europee. Quindi... per me è iniziato un dialogo che forse proprio perché è complesso e appassionante, le banalità non hanno mai emozionato nessuno, possono sembrare rassicuranti, francamente non appassionano mai. Oggi ci, da quanto tu mi dici, troviamo di fronte ad una nuova impresa. Una nuova impresa che credo, al di là del significato specifico dell'amministrare una regione, anche insieme molti altri significati. In un paese normale che si confrontino due donne non, francamente non avrebbe fatto titoli. Il problema è che non siamo in un paese normale, il problema è che siamo in un paese dove la valorizzazione del patrimonio al femminile è francamente patetico. E però io vedo segni di riscossa e ve ne dovrete fare una ragione. Ci siamo, meglio saperlo, meglio prepararci. Partiamo insieme con determinazione in una strada tutta in salita e che, dicevo, mi appassiona sia per il merito in sé, ma per mille altri significati che può avere. Ci tenevo comunque, l'avevo promesso, ci tenevo a essere qui oggi, perché non so come andrà a finire il dibattito che modererai subito dopo. No, auguri, perché... io non conosco benissimo il professor Fagioli, anche se l'ho visto intervenire due volte o più ormai al congressi, con molti di voi peraltro, che riconosco qualche faccia a Chianciano, però conosco molto bene Marco Pannella. Quindi auguri, Radio Radicale in modo molto prezioso mi consentirà di passare parte della notte riascoltandovi e rivedendovi, quindi state attenti. Non voglio però neanche, la ragione altra per cui comunque volevo esserci e dirvi due cose è perché il tema che voi affrontate è un tema di rilevanza straordinaria, di grandissima passione per quanto mi riguarda e spero per quanto riguarda anche voi, che anche questo è un tema che attraversa il mondo, poi noi siamo un po' italianocentrici come letture, come riflessioni, come è abbastanza automatico che sia, ma che poi alzi gli occhi e scopri che questo tema della non violenza attraversa il mondo e le riflessioni del mondo, attualmente, non una cosa che fu. In più mi emoziona essere qui, sono abbastanza di lungo corso, è stato detto, è davvero, per ricordarmi l'Eliseo in molte occasioni. Qui, questo teatro è stato occasione di molti appuntamenti, di storie di iniziative, di battaglie che alla mia età se le ricorda. L'ultima, in cui questa era meno pieno di così, ma comunque inaspettatamente era pieno, è stata un'analisi che abbiamo fatto qua sul come i media hanno trattato il caso Englaro. Fu qui e fu drammatico ripercorrere, c'erano spezzoni televisivi, come quel periodo fu in modo invasivo, pervasivo, martellante, rovesciato dai telegiornali, eccetera, eccetera, su milioni di famiglie italiane. Quindi un filo che continua è un filo che mi appassiona. Dicevo la non violenza, uno, ed è proprio con questo, questi tre o quattro pensierini che voglio condividere con voi, una delle letture più appassionanti, più sorprendenti peraltro, che ho fatto recentemente è un libro di un dissidente iraniano, costretto adesso a vivere altrove, professore anche lui, tra gli Stati Uniti e l'Europa, si chiama Ramin Yanbeglo, e ha scritto questo libretto, che si chiama Leggere Gandhi a Teheran. Già di per sé, credo, è evocativo di molto, ma le cose che lui dice, che io provo a dire con l'unico con linguaggio, quello della parola, ho sempre invidiato chi sa scrivere, è una delle cose che io non so fare. Dice tre o quattro cose così di attualità anche nel cosiddetto dibattito di oggi. Dice sostanzialmente, forse la questione è più spiritualizzare la politica anziché politicizzare la religione. Vi dice niente di questi tempi, di questi giorni? Dice ancora di più. Dice la questione non è in che cosa credere, bensì cosa fare delle proprie credenze. Cosa fare delle proprie credenze? Imporle ad altri o usarle per promuovere aperture, stimoli, rispetto, rispetto alla diversità, rispetto non solo ai più umili, ai più diseredati, ma rispetto a tutti. E attraversando questo libro, questo libretto, come vedete, Ghaffar Khan era un musulmano, come ricorderete, l'amico musulmano di Gandhi, che finì in carcere per oltre 30 anni, è stato uno dei primi riconosciuti prigionieri di coscienza. E ci dice, e dice, quanto attuale altrettanto oggi, il problema non è lo scontro di civiltà, così come ci hanno detto. Quello che magari può essere, perché le civiltà non sono mai scontro, proprio per il valore culturale che porta. Semmai è uno scontro di intolleranze. E questa frase mi ha così colpito, e quindi mi guida a riconoscere in qualche modo e a orientarmi nel dibattiti di cronaca così aperti su temi spinosi, l'immigrazione, l'accettazione, l'integrazione, l'espulsione. Lui dice esattamente non c'è scontro di civiltà, c'è semmai scontro di intolleranze. Penso che il ruolo della non violenza o il decalogo della non violenza, che non è mai quello di imporre all'altro la propria opinione, ma è quasi sempre chiedere all'altro di seguire le leggi, quelle che lui magari ha fatto, e di rispettarle. Credo che il dialogo successivo illuminerà vari aspetti di come l'abbiamo vissuto e di come vogliamo continuare a viverlo e a praticarlo. Ritengo però che democrazia senza non violenza no, è un binomio, democrazia è impossibile. E Ramin Yanbeglo ce lo spiega relativo all'Iran. E ho sentito però, l'ho sentito così vicino, quello che lui dice è applicabile a Roma, a Milano, a dove volete. E questo riconoscersi, quando ci si conosce per via scritta o per via come dire, perché ci si incontra e ci si parla, è una delle più grandi ed emozionanti sorprese. Non riconoscere un altro o una parte dell'altro, riconoscere nell'altro una parte di se stessi. In ogni caso, quello che mi ha veramente non solo spinto ad essere qui, ma accettare questa sfida, a volerla fare in modo molto determinato, è che ho sempre pensato, la scuola radicale di Pannella in particolare mi ha sempre insegnato, che non c'è politica degna di questo nome senza cultura. Che le due cose non solo non sono separabili, una politica senza cultura, si può fare un consiglio d'amministrazione, va benissimo. E che quindi amministrare una regione e amministrarla certamente bene, o un paese, o un ministero, o fare la commissaria europea, farlo bene dovrebbe essere dato per scontato. Farlo immettendoci idee o ideali non è più nella politica attuale così scontato. Forse questo ci distingue un po', quello di voler mettere non solo una buona politica, come viene detto, la politica delle cose concrete. Marco mi dice sempre: l'unica cosa concreta che abbia mai fatto girare il mondo sono le idee. Tutto il resto si può fare bene, ma farla mettendoci qualcosa di sé. Ed è quello che chiedo a voi di metterci in questa campagna elettorale. Qualcosa di voi, una parte di voi, nelle diversità, perché questo è. La diversità, le differenze come energia positiva, non come un dato da contrastare o da combattere, ma semmai da mettere in sinergia e da esaltare. Sempre Ramine, vi lascio con questa parte di storia che non conoscevo. Dice Ramin: nella parte migliore di Cordova, nel momento migliore di più grande esplosione di cultura musulmana, l'Andalusia, eccetera, eccetera, a Cordova, nella stessa stanza, nello stesso luogo, il venerdì pregavano i musulmani, il sabato gli ebrei, la domenica i cristiani. Una cosa già vissuta, che poi evidentemente è stata archiviata. Ma questo dice semplicemente che è possibile, è sperabile, è immaginabile un rimettere la persona umana al centro della vita, della buona politica. Senza di questo un buon consiglio d'amministrazione può risolvere. Ma non è questo, credo, che gli esseri umani chiedono quando si anima non solo al voto, non solo alla campagna elettorale, ma quando si animano o vogliono essere animati, o si possono animare, perché la res pubblica è una grande ed emozionante impresa. Questo voglio portare al di là di tutto il resto in questa campagna elettorale, e mi auguro che queste cose, queste parti le condividiamo, ma soprattutto ognuno ci porti la propria differenza, la propria peculiarità, il proprio modo di essere, con non violenza. Grazie. Thank you. Allora, al lavoro. Ringraziamo Emma, c'è una citazione che ci ha fatto chiudendo l'intervista, il forum con Left, in cui diceva bisognerebbe tornare alla vecchia massima, di quello che pensi e fai quello che dici. Ecco, sicuramente premiamo la coerenza e la trasparenza di Emma e questo decisamente ci porta qui oggi a parlare con Matteo Fago dell'Asino d'Oro, Giuseppe Rippa, direttore di Quaderni Radicali, Marco Pannella, leader storico dei Radicali, Massimo Fagioli. Allora, forse ora sono dovuti un po' di ringraziamenti. Prima di lasciare la parola a Giuseppe Rippa, direttore di Quaderni Radicali, che ringrazio per aver caldeggiato, sostenuto, ideato questa iniziativa di oggi, e Matteo Fago dell'Asino d'Oro. L'occasione è il tema, il potere della non violenza e la politica per cambiare, e l'occasione è anche una discussione che intavoliamo su due, e voglio dire tre, libri oggi, ed è appunto, il primo è il libro intervista di Marco Pannella, Le nostre storie sono i nostri orti, ma anche i nostri ghetti, e lascio la parola a Giuseppe Rippa. Sarò inflessibile, aiutatemi, avete un tempo. Quando è nata l'idea di questa manifestazione, evidentemente non era ancora all'ordine del giorno la candidatura di Emma alle elezioni regionali. Eppure esiste un nesso molto forte tra quello che è accaduto anche nello sviluppo delle ultime ore. Oramai siamo di fronte a una ufficializzazione anche da parte del Partito Democratico nel comitato regionale della candidatura di Emma Bonino, con un voto che è stato definito forte, unanime e anche per vincere. Ce n'è voluto, ma poi alla fine è venuta fuori in un contesto di situazioni che sono noti a tutti. Ma la genesi di questa manifestazione è l'idea di conversare con Massimo Fagioli dopo la sua presenza ad un'assemblea dei radicali italiani a Chianciano. In quell'occasione è emersa una intenzione anche, come dire, politica da parte di Fagioli, cosa che mi incuriosì. Ho cercato di incontrare Massimo e in quella occasione, in una conversazione ampia in cui i risultati sono presenti nell'ultimo numero di Quaderni, che porta appunto il titolo che poi è riprodotto in questa occasione, Il potere della non violenza, la politica per cambiare, si definì l'ipotesi di ragionare della non violenza con Marco Pannella, che è il leader storico della prassi politica della non violenza, e allo stesso Massimo Fagioli e la sua teoria della natura umana, che è appunto un altro filone della visione della non violenza che riguarda più specificatamente il contenuto teorico e anche dell'individuo e della persona. Naturalmente lo svilupparsi della situazione ha consentito questo felice incontro e la possibilità di creare nel primo appuntamento esterno della candidata del centro-sinistra alle elezioni regionali del Lazio quello che appunto si è verificato questa mattina. A me compete un attimo adesso di fornirvi alcuni piccoli segmenti di riflessione che poi opportunamente saranno sviluppati da Marco e nel caso anche da Massimo, relativamente appunto a quelli che sono i rapporti tra una visione di prassi politica e di teoria della natura umana. Vedremo se i due troveranno un accordo, ma sicuramente hanno sviluppato in questi ultimi mesi un intenso lavoro di comunicazione di cui noi ci siamo resi interpreti attraverso appunto il numero di Quaderni, la conversazione con Massimo e diciamo anche tutte le opportunità prodotte. Ma credo che sia significativo e importante comprendere come intorno al discorso della non violenza non matura soltanto un atteggiamento di prassi politica casuale, è il contenuto che per 60 anni la vicenda radicale ha portato avanti, e cioè quello del completamento della democrazia come elemento strutturale del lavoro politico radicale. In questo senso, e io mi permetto di buttarlo lì perché credo che poi Massimo potrà ritornarci, la stessa vicenda del rapporto istituzioni, individui, il concetto stesso della legge del diritto come elemento fondante dell'agire degli individui è testimoniato dalla prassi politica radicale. In fondo la lunga stagione dei sit-in, dell'azione non violenta, non era soltanto posizionata come un elemento casuale, era sostanzialmente il punto di sintesi che andava a contrastare anche culture che, pur avendo potenzialmente una vocazione democratica, non completavano la democrazia, avevano concepito come fondante il fatto che la violenza potesse essere costitutiva per gli stati o per la rivoluzione o per tutti gli altri aspetti che di fatto definiscono l'agire stesso. Era l'elemento di frattura, quell'elemento che evidentemente ci permette di dire che la sinistra storica in questo paese, per egemonia marxista, non ha i contenuti del mutamento inteso come prassi di completamento della democrazia stessa. E questo credo che sia un elemento su quale bisogna riflettere e su quale bisogna capire come e perché non c'è un accanimento alla definizione della legge del diritto, e quindi emergono tanti altri filoni: il riconoscimento e il rispetto dell'avversario politico, la criminalizzazione dello stesso, segmenti che sono presenti nel nostro agire e dal quale traiamo poi conseguenze devastanti. Ma ancora più significativo è che il discorso della non violenza si collega al discorso della verità. Il concetto, il termine di Satyagraha, per esempio, lo descrive in modo molto completo. Ogni tanto Marco ce lo propone, c'è chi afferma che il termine Satyagraha è estraneo un po' alla nostra cultura, che non è sostanzialmente vero. Credo che il termine Satyagraha, da sati, verità, appunto essere, esistenza, e da gra, l'affermazione di qualcosa, testimonia come questa affermazione di verità si ricollega, per esempio, nel nostro tempo all'affermazione della verità e al concetto della disinformazione e della mistificazione. In queste ore c'è un'iniziativa molto precisa che riguarda il modo con cui il sistema informativo, quello pubblico per esempio, definisce gli aspetti della conoscenza. C'è una battaglia di legalità e di diritto sui soggetti che sarebbero preposte alla funzione di controllo, e cioè quella appunto delle tante autorità che dovrebbero sviluppare questi elementi. Ma il sistema partitocratico, il regime partitocratico che noi abbiamo definito come radicali in una sintesi complicata, complessa ma mirabile, che appunto la prassi italiana descrive come queste autorità sono figlie stesse di un sistema in cui la mistificazione è l'elemento fondante sul quale muore l'appropriazione. È evidente che la mistificazione è un supporto fondamentale della violenza. La violenza di per sé non riesce a vincere, in assoluto la violenza non vince. Vince sostanzialmente quando si associa a quello che è un processo di falsificazione e di mistificazione. E in questo senso non è un frutto casuale l'impegno assunto dai radicali, per esempio, ancora adesso, in queste ore, in vista della campagna elettorale. Io non voglio qui fare valutazioni o incursioni casuali. So per certo che negli ultimi 20 puntate di Ballarò o di Anno Zero abbiamo avuto la Polverini stabilmente presente nelle loro trasmissioni. Significherà qualcosa in termini di proiezione, di radicamento, di percezione di certe identità. Non so se questo significa promiscuità di una parte di una certa sinistra che sceglie sempre il tanto peggio per il tanto meglio, ma questi aspetti fanno parte, compongono la piattaforma su cui andremo a confrontarci nel voto, e danno sostanza alla cultura della non violenza come condizione reale di agire e di prassi politica, su quale naturalmente si innesta il lavoro di configurazione della teoria della nascita, che può trovare la sua piattaforma di definizione perché non trova l'intoppo, l'incaglio, la frattura della visione fondante che la violenza può essere giustificata in alcuni passaggi come presa rivoluzionaria o come condizione appunto di realizzazione dello Stato in chiave rivoluzionaria. I fatti hanno sempre dimostrato che attraverso questo percorso quello che si è definito è sempre un peggioramento delle libertà individuali sostanzialmente. Quindi il punto sul quale va inquadrata questa situazione è che noi abbiamo una aderenza assoluta tra l'avvenimento politico, la candidatura di Emma Bonino, nata attraverso un percorso complesso nel quale ci esoneriamo dal fare riflessioni che ci procurano anche una qualche ilarità. Non è solo il decalogo di Giuliano Ferrara oggi sul Foglio col quale ci viene invitato, attraverso anche un meccanismo che non è del tutto balordo o banale. Ecco, per esempio, Giuliano Ferrara a un certo punto dice: la critica deve essere ossessiva, personale, non violente e linguisticamente brutale. In realtà la non violenza, proprio perché è aggressiva, Giuliano Ferrara è abbastanza furbo nel mettere insieme. La non violenza è aggressiva e non rinuncia, non è il pacifismo. La non violenza ha dei caratteri molto precisi, è quella che provoca il conflitto e lo descrive, lo sistema metodologicamente all'interno del confronto dialettico. Dunque questo criterio che lui inserisce, un po' direi accortamente e subdolamente dal suo punto di vista, mira a creare un meccanismo che lo giustifica sul piano del metodo, ma può invece alimentare un qualche elemento di odio e di fastidio. Ma il punto direi che ci conviene meglio affrontare qui, e vado alla conclusione, è che proprio il concetto della violenza, che in assoluto non vince se non è costantemente supportata dalla falsificazione e dalla mistificazione, può trovare per esempio anche una definizione storica nel fatto che difficilmente le truppe di Himmler avrebbero dato forma alla vicenda tragica e terribile del massimo momento di evidenziazione della violenza, qual è appunto quello del regime hitleriano, se non avesse avuto il conforto costante di Goebbels e del processo appunto di falsificazione che ha definito i meccanismi del sistema appunto circolare della violenza stessa. Quindi il metodo non violento, che è anche il metodo del coraggio, e credo che in buona sostanza è emerso anche così psicologicamente nel vedere appunto Emma, in qualche misura sempre in una condizione di grande tensione, ma contemporaneamente anche di grande determinazione, cioè l'aver incorporato stabilmente nel tempo, grazie all'indicazione costante, che quello che è stato per tutti noi radicali, mi rendo conto che potrebbe non essere per altri, l'elemento indicativo del nostro progetto di vita, perché abbiamo imparato attraverso appunto l'azione di Marco Pannella a definire dentro di noi gli strumenti attraverso i quali potevamo essere alternativi alla dinamica che ci sta di fronte. E quindi abbiamo in qualche misura la consapevolezza e la pienezza di essere idonei a candidarci a un'azione di governo che contrenga la intelligenza delle cose, che si sottragga alle perversioni ideologiche, che faccia della fede un elemento fondante anche il progetto di vita dei singoli, ma non ne faccia una linea di perversione ideologizzata appunto con i caratteri di settarismo che sono poi parte anche un po' del nostro tempo. Concludo dicendo che sulla non violenza si può anche aprire un altro fronte. È efficace la non violenza relativamente a quelli che sono gli aspetti che riguardano il quadro internazionale, il terrorismo, le dinamiche che questo scatena? Secondo me, e io non ho il tempo adesso di sviluppare un ragionamento più completo, la non violenza ha questi caratteri fondanti. Lo testimonia il fatto che quando è nata l'iniziativa di Iraq Libero, messa in piedi sul piano dell'analisi e del progetto politico da Marco Pannella, che rendeva possibile appunto ridefinire una situazione come quella dell'Iraq con una condizione attraverso l'esilio di Saddam che era praticabile, c'è stata appunto la violenza degli stati e l'egemonia che ha voluto fissare i propri parametri. E quindi l'azione sulla quale Marco intende in queste ore, in queste prossime ore, operare attraverso un'azione di satyagraha che va a colpire queste elite che non facevano neanche conto della esigenza della difesa, della sicurezza che nessuno ha mai escluso. Ecco, questo fa emergere come in una cultura della non violenza vi è la pienezza della consapevolezza democratica, nel quale nessuno degli ingredienti che fanno parte del nostro vissuto quotidiano viene smarrito. Penso appunto all'esigenza, alla domanda legittima di sicurezza. Cioè emergerà in queste ore di campagna elettorale la capacità, attraverso la figura di Emma Bonino, di un prassi politica di un soggetto politico che ha sempre mantenuto un profilo di governo politico, associandolo ad una capacità di analisi e di riflessione in grado di essere in condizioni di candidarsi legittimamente al governo di una regione, del paese, dell'Europa, con i contenuti culturali che questi 60 anni di storia hanno visto esprimere nella battaglia di Pannella e dei radicali, e che sono appunto i contenuti dell'unica alternativa urgente e possibile di cui questo Paese ha bisogno per uscire dalla crisi. Grazie tantissimo. Do la parola a Matteo Fago dell'Asino d'Oro. Allora, dunque io ho il compito di presentare questo lavoro, questo libro, ultimo libro che abbiamo fatto con Massimo Fagioli, che Massimo Fagioli ha pubblicato con noi. Siccome però non voglio rubare tempo poi alla discussione che ci sarà dopo, che sicuramente è molto interessante, allora niente, vi dirò soltanto alcune cose molto rapidamente. Quando abbiamo cominciato a parlare con Rippa, come già lui ha ricordato prima, si pensava di parlare solo di non violenza e di come la non violenza possa diventare una, possa essere una politica per cambiare, appunto il titolo di Quaderni Radicali. E poi da lì è venuta appunto l'idea di mettere a confronto i due personaggi, due grandi personaggi, di cercare di vedere come il tema della non violenza fosse anche un punto di incontro. Ora però questo tema è chiaramente diventato superato dopo la candidatura della Bonino e per la straordinaria accoglienza che ha avuto da tutte le parti su tutti i giornali. Quindi però io tenterei lo stesso di fare un tentativo, di fare una piccola, sempre per sommi capi, di fare questo parallelo tra le due storie, quella di Massimo Fagioli e quella di Marco Pannella, perché mi sembra che ci siano dei punti di contatto importanti tra i due, come se fossero due storie che hanno corso parallele per tantissimi anni, due binari di una ferrovia impossibile, diciamo, che adesso si avvicinano e si intersecano, a partire in particolare dall'ultimo anno, o meglio da anche un anno e mezzo, diciamo. Da una parte quindi Pannella è il Partito Radicale, il partito più longevo d'Italia, 55 anni mi sembra, nessun altro partito esiste da così tanto. Come ha detto ieri la Bonino, un partito sempre stato precario che però è sopravvissuto a tutti i cataclismi politici che ci sono stati e che malgrado la precarietà ha portato avanti e vinto battaglie fondamentali per i diritti civili di tutti. Dall'altra Massimo Fagioli, medico, psichiatra e scienziato, che ha speso la vita nella ricerca sulla realtà umana più profonda, una ricerca teorica sofisticatissima che lo ha portato a teorizzare la teoria della nascita, o come anche viene detta, la teoria della realtà umana. Quindi, intanto, un primo punto, io direi, è senz'altro, e questo lo ricordava giustamente Ilaria all'inizio, la ribellione al costituito, al pensato immodificabile dalla cultura e dalla società e dalla politica. Una ribellione che si potrebbe pensare come utopica, data la grandezza delle ribellioni, anzi che si potrebbero pensare utopiche, data la grandezza degli obiettivi, che però nell'uno e nell'altro caso si sono realizzati in successi straordinari, politici da un lato e medico-psichiatrici dall'altro, sempre mantenendo un filo conduttore di onestà e coerenza. Allora, io vorrei tentare appunto di parlare di qualche punto che penso possa essere importante per fare questo parallelo e in particolare prendendo spunto dall'ultimo libro di Fagioli che abbiamo pubblicato, Left 2006, in cui sono, come penso sappiate, in cui sono raccolti gli articoli che scrisse per il settimanale Left nel 2006 appunto. La cosa interessante che si può notare, direi che è caratteristica del libro, è che pur essendo articoli fatti di settimana in settimana, in essi si trova un filo che li lega a tutti quanti, quasi che fossero effettivamente stati pensati come poi per essere pubblicati in un libro. Ed è una cosa abbastanza, una prima cosa molto misteriosa. L'altra cosa è che in questi articoli, oltre ovviamente a poter leggere una storia del 2006, tutti gli avvenimenti che, perché ovviamente Massimo scrive ogni settimana su quello che gli accade intorno, quindi è chiaramente in rapporto con la realtà sociale e politica che gli è intorno. L'altra cosa interessante è come ogni volta ricostruisca, in qualche modo riparta da zero, da quello che vede intorno a sé, da quello con cui è in rapporto, e ricostruisca la teoria, cioè riproponga discorsi teorici, che possono essere la nascita, la separazione, il rapporto uomo-donna, e mille altri aspetti. Insomma, la teoria di Fagioli è molto articolata, quindi ora, e questo accade ogni volta con un linguaggio che cambia continuamente, non è mai lo stesso. E quindi accade che leggendo il libro uno si accorga di scoprire delle cose che magari aveva letto anche prima, però in una maniera nuova, quindi potendo leggere dei fatti nuovi. Un altro livello di lettura, che è forse quello più interessante, è quello della storia, storia di 60 anni di vita. Quindi dalle lotte partigiane fino al 56, ai fatti di Ungheria, al rapporto col comunismo e così via. Insomma, io il tempo è poco e non voglio, appunto, ripeto, rubarlo, quindi a questo punto però appunto volevo prendere spunto da un passaggio che c'è nel libro, quando Massimo parla di, in particolare del 1956, in cui si riferisce a un altro nome nobile della politica, un nome nobile della politica italiana, che sarebbe Riccardo Lombardi. Era il 56 e, appunto, dice Massimo nel sommario dell'articolo, i nomi di Lombardi e Giolitti, 1956, ed io studiavo la malattia mentale, la percezione delirante. Avevano visto nel comunismo qualcosa che non c'era? E qui, appunto, vorrei parlarvi, in realtà, per cercare di mettere in evidenza questi collegamenti, penso che sia importante ed utile parlare, appunto, un po' di Lombardi, di Riccardo Lombardi, perché è un personaggio politico ritornato, che secondo me è ritornato alla ribalta per il recente anniversario della sua scomparsa, il 18 settembre scorso, e dimenticato da tantissimo, troppo tempo. Un personaggio politico di una intelligenza, di una raffinatezza di analisi politica e assolutamente straordinaria. Io non confesso, abbiamo pubblicato il libro e confesso che non lo conoscevo praticamente per niente, ed è merito di Carlo Patrignani che lo ha ritirato fuori. Carlo racconta nel libro che appunto tutta la sua storia con Lombardi è una storia di rapporti personali molto intensi, molto emozionanti, e racconta pure di come lo stimolo per ritornare a parlare di Lombardi sia stato un articolo, un'intervista fatta a Fagioli sul Corriere della Sera nel 2005, in occasione di un'intervista che gli fu fatta per la candidatura alle primarie di Bertinotti, che presentò la sua candidatura alla Libreria Amore e Psiche di Roma. E lì Fagioli ricordava, appunto, all'intervistatore che gli chiedeva ma dove ti collochi politicamente, eccetera. Lui disse immediatamente che era Lombardi il suo punto di riferimento, che poi dopo in qualche modo fu dimenticato. Adesso, insomma, soprattutto nel 2005 nessuno sapeva nemmeno chi era, forse, non lo so, a parte quelli che lo avevano conosciuto. Ecco, questo libro è molto molto bello. Io, tra l'altro, se posso fare una piccola annotazione, non so se mi permette Ilaria, la Presidente, uscirà la settimana prossima, quindi invito tutti a comprarlo in libreria. In questo libro c'è raccontata una storia d'Italia assolutamente originale, direi, in una maniera assolutamente originale. La cosa forte di Lombardi è, appunto, il pensiero, che è un pensiero che direi che si potrebbe utilizzare nel contesto politico attuale. Il suo riformismo rivoluzionario come soluzione terza, che non accettava né il comunismo non accettava di accordarsi né con il comunismo, né di a fare compromessi né con il comunismo né con la destra democristiana. Una terza via che non cercava compromessi, ma anzi semmai cercava di spingere gli altri a spostarsi sulle sue posizioni. Quindi cercava di costruire una rivoluzione democratica, se la vogliamo chiamare così, senza mai uscire dalla legalità, quindi senza mai ricorrere a metodi violenti. Quindi in questo senso potremmo dire era anche lui un non violento. Ma senza rinunciare all'idea di trasformare la società per il benessere di tutti. Ecco, e qui c'è l'idea magnifica di Lombardi, che era, direi che è un'idea centrale, assolutamente attuale, in anticipo, come tutto il pensiero di Lombardi, in anticipo sui tempi, cioè che il benessere per Lombardi non si esauriva nel benessere materiale. Anzi, aveva chiarissima l'idea che la realizzazione umana dovesse essere più ampia. Lui parlava di bisogni umani, potremmo dire che aveva perfettamente chiara la distinzione tra bisogni ed esigenze. Per lui era assolutamente chiaro che la realizzazione umana non stava nell'avere più cose. Quello che bisognava costruire era un'alternativa di sinistra che permettesse a tutti di poter apprezzare anche Dante e Picasso. Infatti io vi volevo leggere un pezzettino interessante del libro. Ecco, una prima citazione può essere interessante. Se riusciremo a far intravedere alla maggioranza della gente che non si tratta di un albero di Natale, l'alternativa di sinistra, ma di una ristrutturazione della società che dia a tutti, anche a chi oggi è emarginato o condannato a un lavoro improduttivo, l'occasione, la possibilità di una maggiore dignità, la speranza di vivere non tanto meglio quanto diversamente. E poi l'altro pezzo interessante, appunto, in cui si dice di Dante e Picasso. Lui parla di una società diversamente ricca, in cui è una società in cui l'uomo diventa diverso a poco e diventa uguale, diverso. E non sarà uguale, dice, all'imprenditore perché ha l'automobile come l'imprenditore, ma perché è capace di studiare, di apprezzare i beni della vita, no? Una ricchezza per cui non bisogna offrire, come una volta in una discussione con Fagioli mi disse anche lui, il problema non sono i 100 euro più in busta paga, ma sono le 4 ore libere per andare a studiare Dante o Shakespeare. Ecco, Lombardi già lo prefigurava, lo diceva, parlava di una società e di un'alternativa di sinistra in cui si costruisse una società diversamente ricca. Cioè. Quindi mi sembra di poter pensare che aveva un'idea di politica alta come confronto tra posizioni diverse, che però non diventavano mai un confronto tra buoni e cattivi, cioè tra giusto e sbagliato in assoluto. Era sempre una idea di politica come rapporto dialettico. E in questo penso che possiamo ritrovare molte delle idee sia dei radicali e di Pannella che di Fagioli. Quindi, tre storie di ribellione, Pannella, Lombardi e Fagioli. Sempre ribelli, sempre utopisti a vedere le cose che gli altri pensavano impossibili come cose realizzabili e possibili. Tre storie di uomini generosi e convinti, almeno questo io penso e credo di poter dire da quello che ho letto, della bontà di fondo dell'essere umano. Lombardi, il socialista visionario che voleva realizzare l'alternativa di sinistra essendo più di sinistra dei comunisti, che voleva anche che gli operai potessero apprezzare Picasso e Dante, che aveva capito che il fascismo non era soltanto violenza materiale. Pannella invece è il guerriero non violento, che ha messo in gioco la sua vita mille e mille volte per la legalità e i diritti civili, per gli immigrati, i carcerati, per le libertà di tutti e in particolare delle donne, con le battaglie sul divorzio e sull'aborto, battaglie che permettono a tutti noi di essere più liberi. E Fagioli, lo scienziato geniale che ha speso la vita ad esigere dagli altri di realizzare la propria identità, quella misteriosa e sfuggente identità, la perla delle perle di cui parlava il giovane Marx, che si ha quando si riesce a realizzare e a ricreare quella nascita del pensiero che ci fa amare il diverso e sconosciuto. Basta. Beh, intanto possiamo mettere l'ora vicino a 16. Mi ascolto di nuovo. Intanto costringo i due leader a salire sul palco e a lavorare insieme a noi. Posso solo... La parola sinistra compare tantissime volte, forse anche troppe, però per noi costruire un'alternativa di sinistra è fondamentale, e sicuramente la storia di Marco Pannella con la teoria della non violenza e tutta la ricerca sulla realtà umana di Massimo Fagioli converge adesso, perché adesso bisogna costruire un'alternativa seria finalmente. La stessa Bonino ci raccontava in redazione che questa pratica di trasparenza che ci spinge a portare avanti battaglie perse a testa alta, sapendo che altri le vinceranno magari fra 20 anni, è una parte integrante di una cultura di sinistra. Ecco, secondo me le vostre storie, questa coerenza, questa trasparenza, questo portare avanti battaglie per una vita vi unisce. Quindi datevi da fare. Forse potremmo iniziare, se volete, ascoltando dei contributi dalla platea che possono dare degli spunti di discussione. Io ho alcune persone che si sono iscritte, per esempio ho Andrea Masini, psichiatra, che ha chiesto di fare una domanda. Certo. La domanda è questa: visto questo palese miracolo della comparsa di un'identità femminile, e vorrei dire appunto di una magnifica identità femminile di politico radicale, che ha subito sollevato un grande consenso, effettivamente è già stato detto, tanto che nemmeno gli oppositori hanno avuto modo di insultare come altre volte avviene, ma io vorrei ricordare una storia che ci riguarda, cioè luglio del 2008, quando un nutrito gruppo di persone fece a Fausto Bertinotti questa domanda: se si poteva considerare che l'aumento della produttività, questi fattori, l'aumento della produttività, la denatalità e l'accoglienza degli immigrati, come se questi, se si potesse pensare che questi elementi possano funzionare da spinta, da proposizione, per la emancipazione delle donne, non più costrette a fare le casalinghe e ad allevare 10 figli, e ovviamente non nel senso di importare schiavi come è avvenuto, come sta avvenendo, ma con tutti i fatti di tutela della salute, della cittadinanza. Insomma, la domanda sarebbe questa: esiste secondo voi un nesso profondo, nascosto, tra l'emancipazione delle donne e l'accoglienza degli immigrati? Credo che la domanda contenga, fatta qui stamattina, in questo paese, contenga già la risposta, mi pare. Il nesso è profondo. Non è un caso se un'articolazione del partito, Non c'è pace senza giustizia, sta probabilmente per riuscire a fare arrivare all'ONU, dopo la Corte Penale Internazionale, passare dal diritto internazionale alla giurisdizione internazionale, o non a caso la moratoria sulla pena di morte. Adesso credo che arriverà in qualche modo il problema delle mutilazioni genitali femminili, come problema che riguarda centinaia di milioni di donne, di persone, che in genere poi trasferiscono come emigrate o immigrate questi problemi nelle società nelle quali viviamo e moriamo noi. Quindi il nesso, mi pare, è profondo. Ed è il nesso della storia. Quando noi abbiamo su un altro articolazione organizzata della nostra identità, si può dire, maestro? Va bene? Della nostra identità in perenne trasformazione, si può dire. L'EFT. Allora. Abbiamo proprio questo, quando viene alla base della Coscioni e dell'agenda che ben conoscete, della quale siete in qualche misura coeditori, coediti, eccetera. L'obiettivo dal corpo dei malati, pure quelli di mente, mentali, no, non è che è solo il corpo, dal corpo dei malati al cuore della politica. È cosa che vale nei paesi oggi di emigrazione e in quelli in cui trasferiscono con l'immigrazione questi problemi come problemi di tutti. Quindi mi pare che quando Emma subito coglie l'occasione per dire il quoziente familiare, occhio, stiamo attenti, perché l'evocazione della famiglia rischia di diventare un'evocazione tabù feticistica, cioè non effettiva, reale, non concepita, non indirizzata. Quando dice se noi vediamo il quoziente familiare nelle quali implicitamente ma chiarissimamente abbiamo un rapporto, direi anche lavoro-produzione, che è quello nel quale implicitamente ma chiaramente abbiamo la donna come nella famiglia, così concepita, non gli asili, ma più ore o migliore remunerazione perché la mamma possa continuare a fare nello stesso tempo quella che cura il bambino, che cura la suocera o il papà e la mamma nella struttura familiare, no? Tutto. E quindi su questo anche andiamo al problema che ponevate a Fausto e che oggi ci riproponiamo. Non è che non saremmo felicissimi di poter avere una società nella quale chi voglia, chi sul piano della propria identità vuole costituirsi in famiglia senza che poi siano necessariamente realizzate le funzioni tradizionali, no? Diciamo meccaniche. Questo anche potrebbe essere benissimo concepito, ma a partire da una scelta, non da un'obbligazione. E qui abbiamo i problemi del rapporto di lavoro, di produzione, di immigrazione, di emigrazione, di culture, di identità storiche, individuali o no. Quindi io capisco che forse Fausto oggi probabilmente risponderebbe in un modo diverso rispetto a 2 anni fa. Almeno me lo auguro. Me lo auguro anche per il Nicchi, francamente. Perché queste cose sarebbe bene discuterne come ricchezza, come possibilità di crescita, e quindi di errore, di crescita sbagliata, ma di crescita, di responsabilità, di esercizio della libertà. Professore. Mo sentiamo lui. Io mi fermo e su quanto è stato detto nella domanda, importante anche perché, forse perché sono passati 2 anni, si è arricchita di un qualche cosa di molto più complesso e profondo che non 2 anni fa. 2 anni fa l'idea che era venuta era immediatamente una faccenda denatalità immigrati. Se vogliamo anche mettere insieme, se non proprio conciliare, accostare questa evoluzione della società nel senso dell'aumento del benessere, senza fare gli antiscienziati, antiscientisti, di rinnegare i progressi della tecnologia e della ragione, allora dobbiamo considerare anche l'aumento della produzione. Qui mi piacerebbe proprio fare un bel discorso anche con Lombardi, nel senso che sì, siamo d'accordo, ma questa cosa è impossibile di conciliare, di comporre insieme la sofferenza fisica delle persone che va dai malati del corpo e magari anche dalla mente, l'eliminazione di questa sofferenza fisica nel senso della soddisfazione dei bisogni con le esigenze. E certamente andare a vedere le mostre di Picasso, certamente andare a leggersi Petrarca, forse meglio che Dante, Dante è troppo cattolico. È un ideale che l'operaio faccia questo perché ha una formazione di personalità, ma per questo deve fare le scuole almeno fino a tutto il liceo. Non può accontentarsi soltanto della terza media o addirittura della quinta elementare. E allora si tratta di comporre questa cosa con quello che avevamo detto le idee. Cioè, è quello che mi sembrava, forse è una mia cattiva impressione, che Fausto non avesse ben accolto la necessità, ecco che qui poi andiamo a discorsi più profondi che quella volta non abbiamo nemmeno fatto, la necessità di vedere che la realtà umana e la società umana non implica l'aumento della popolazione, anche perché a livello mondiale sono tanti quelli che ormai dicono che 7 miliardi sono troppi. Adesso spero che ci siano i verdi, eccetera, che continuano a dire che ha raggiunto il massimo, e se tra 20 o 40 anni dobbiamo arrivare a 10 miliardi sono guai per il pianeta. Questo è ben noto. Allora, e questo sarebbe in concordanza perfetta con la realtà umana. La realtà umana, ecco che qui tocco questo un po' di più, non è soltanto quello di aumentare la produzione, il benessere o addirittura la conoscenza, ma anche quello di fare il rapporto interumano. E nel rapporto interumano, chiaramente, il rapporto uomo-donna è fondamentale, cardinale. E quello che io non ho mai sentito, anche quando qualcuno, le femministe, rivendicano la libertà delle donne e così via dicendo con i diritti civili, però lo studio di che cosa sia la sessualità umana non c'è. È certo, per me è certo, che la sessualità umana non è biologica. Cioè, meglio, scusate, è biologica. gli ormoni esistono, eccetera, eccetera, e funzionano, e c'è uno sviluppo, una pubertà, eccetera. Ma non è soltanto biologica. Adesso qualcuno potrebbe insistere e dire che non è soprattutto biologica, ma è soprattutto mentale. È soprattutto mentale. Mentale. No, no. Quando ci si sul serio gioca, diciamo pure, ci giochiamo, diciamo pure, non soltanto l'identità fisica, ma ci giochiamo anche l'identità mentale. E i rapporti più profondi sono questi sessuali, senza specificare quali, perché ognuno fa quello che gli pare, ma sono quelli sessuali al di là, oltre il discorso della società, dei rapporti sociali, dei rapporti di lavorare insieme, dei rapporti di colleghi, dei rapporti di amici, eccetera, di manifestazioni e anche magari di politica. C'è tutto un mondo che poi in tempo lontano si chiamava anche privato, eccetera, che va sviluppato perché non c'è. Ecco perché io direi che questo legame, questa storia per cui ci siamo incontrati e si è incontrata questa cosa che non era mai andata d'accordo tra, chiamiamolo pure privato, per tutta la ricerca che ho fatto io sulla realtà umana, per dare un'identità che non era soltanto quella della ragione, che non era soltanto... Certo, quell'identità lì non vanno bene. Io sono perfettamente d'accordo. Sono un anti-identitario anch'io, come dice la Bonino. Finché l'identità è quella vecchia, quella religiosa e quella razionale. La scoperta di un'identità nuova, la scoperta di una realtà umana che è stata tenuta sempre lontano dall'identità, che è quella misteriosa, quella di un terzo di vita, quella del sonno, quella delle immagini che non parlano. Se noi riusciamo a mettere queste immagini che non parlano nel comportamento, che, dal quale sempre sono state escluse, perché c'è tutta una teoria che comincia dalla faccenda di Caino per andare a questa mostruosa alleanza tra ragione greca, logos occidentale, in cui eccetera, e qui forse d'accordo Pannella è interessante perché parla di satya gra. I greci parlavano di aletheia, di ricerca della verità e della verità umana, però non hanno mai gettato lo sguardo su questo mondo del sonno che fa parte di un terzo di vita e comprende un terzo di vita in cui non si pensa alla realtà biologica, non si pensa alla sopravvivenza, a mangiare, bere e riparsi dal freddo. È un livello di libertà assoluta che però certamente se non si lega, se non si cambia, se non si trasforma in una veglia, una ragione, un calcolo per ottenere tutte le possibilità del benessere fisico, rischia di essere suicidio. Rischia di essere suicidio, si rischia di andare a fare il barbone e che morirà di fame e di freddo. E questo mondo misterioso, straordinario, altro che ricchezza, Lombardi non lo diceva questo. Giustamente ne aveva accolto male la psicanalisi, eccetera, perché la psicanalisi andava accolta male perché era un mucchio di fregnacce assoluto. Però questa ricerca su qualche cosa che era altro e che era poi stato sempre possesso totale dei geni e degli artisti, la dimensione senza coscienza, la dimensione della fantasia, la dimensione di questa genialità senza parola che però fa, ecco appunto, dipingere a Picasso certe cose mostruose, strane, fuori del comune. E io mi ricordo che quando ero piccolo molte persone, una buona parte, diceva che Picasso era un povero pazzo. Sì. Perché mettono fuori una dimensione nuova, originale, della realtà umana che è stata sempre trascurata da questi due grandi Moloch. Ragione e religione. Sempre e in ogni modo, per cui la religione si occupa soltanto della realtà materiale e magari sì, certamente qualcosa ha fatto la scienza, anche se a Montalcini dice che le invenzioni scientifiche sono dovute ai sogni sono dovute a questa fantasia interna e non tanto alla ragione. Ha fatto la tecnica, ha portato a un livello di benessere del corpo notevole, molte malattie sono state assolutamente finte, però poi la scienza si è fermata lì e si tratta appunto di andare a vedere questo, se questa fantasia, questo pensiero sta insieme a un ricordo, una memoria antica, per cui io dicevo e siamo d'accordo che questi due giovinastri, che dico 50 o 60 anni fa, 60 anni fa, che si sono posti magari sotto i suggerimenti di un Lombardi, certo, contro il comunismo, contro il partito religioso che era il Partito Democratico, corrispondono a un tentativo di parare queste due identità umane che vanno demolite, cioè quella soltanto razionale e quella soltanto religiosa. Adesso vediamo se ci riusciamo sotto l'egida, sotto questa splendida immagine di Emma Bonino che è venuta fuori e che può portare a livelli pubblici questa, non solo questa ricerca, ma questa alleanza, che per cui questo discorso sulla realtà umana, che in genere si fa tra quattro mura, a porte chiuse, perché non si possono turbare i sonni delle persone per bene, viene portato a livello pubblico, riuscendo a mettere questi assolutamente necessari diritti civili di tutti in primo piano. E è inutile che mi metta a leggere quello che lei dice, perché propone proprio questa cosa di non occuparsi soltanto del benessere fisico, e certamente no, si dovrà occupare anche dell'aumento dello stipendio, però non soltanto di quello. Ah, sì. Allora, permettetemi di approfittare della presenza, perché c'è un libro che è stato oramai più e più volte citato, che è Lombardi e il fenicottero. Tra di noi ci dovrebbe essere Carlo Patrignani, l'autore. Di rivolgergli una domanda direttamente. Insomma, tu descrivi questo personaggio che avrebbe resistito, no, in qualche modo al comunismo, a quel comunismo di Togliatti che portò alla firma del concordato, che resistette alla Chiesa e all'ingerenza della Chiesa. Sono memorabili alcuni pezzi sulla DC scritti da Lombardi che tu citi, e che parla di socialismo liberale, di riformismo rivoluzionista, cioè che mette insieme termini apparentemente che nulla hanno a che fare l'uno con l'altro. Ecco, ce ne vuoi parlare tu? Di che figura strana, in che modo oggi possiamo, diciamo, rimetterlo nella ricerca? Intanto vi ringrazio per tutto quello che avete fatto fino adesso. E, che dire? Io credo che nella situazione attuale, politica, un grosso riconoscimento da fare a questo straordinario personaggio per quei tempi, sia di essere stato il più corretto interprete del marxismo, pur non essendo marxista. Cioè lui, dal suo studio, dalla sua osservazione di quello che per quei tempi, parliamo degli anni 40-50, poteva essere il marxismo ortodosso, interpretò esattamente lo spirito e il senso di termini come alienazione, per esempio. E forse proprio perché fu capace di leggere bene il senso profondo di questo termine, possiamo dire che immediatamente questo lo portava a scontrarsi con Palmiro Togliatti, perché questa c'era una grossa contraddizione. Nel momento in cui da marxista non interpreto bene il termine alienazione, non vedo come è possibile l'orientamento di un accordo o comunque di una ricerca continua di un compromesso storico, o come fu all'epoca, diciamo così, della Costituente, il voto sull'articolo 7 della Costituzione. Poi un'altra cosa che secondo me lo contraddistingueva nettissimamente un po' da tutta la storia del Partito Comunista, no? Per dire, fu quello che lui cercò sempre nella sua diciamo così ferma identità socialista una dialettica, un confronto per costruire quella che è stata più volte detta un'alternativa di sinistra. Ecco, io mi fermerei qui, perché insomma, richiederebbe molto di più, insomma, ecco, sviscerare esattamente il pensiero, come avete titolato voi, di Left, rivoluzionario di Lombardi. Ultimamente anche tu parli di socialismo liberale, vuoi aggiungere qualcosa? Oppure andiamo avanti con le domande. Vuoi fare un fatto di acustica. Cosa pensi del socialismo liberale, di questa possibilità, no? Di quello che ho pensato da sempre, ne sono un prodotto. Esatto. Il problema è che adesso dobbiamo essere operai di tutto questo, costruire come in carcere. Allora, due cretini pazzi che non pensavano ai guai, alla famiglia, eccetera, hanno scritto qualche pagina, Altiero e Ernesto, che ha fatto di loro, in due, isolati dai partiti, in carcere, con quella robetta scritta, il manifesto nel 41-42, che cosa? Quello che normalmente nella storia si attribuisce ai grandi edificatori degli stati, non so, Ciro il Grande, no? Edifica nella storia. Oggi, dopo quello, il legame evidente con la creazione dell'Unione Europea, prescindo, vado oltre, oggi in realtà quelle 40, 400, a seconda poi delle variazioni, pagine lì scritte da questi nostri due concepitori, autori, è un testo di base che naturalmente possono essere riconosciuto come tale dai tibetani, dagli uiguri, non facilmente, ormai sì, perché questo siamo riusciti a essere, come dire, tramite di questo contro il logos, per il dialogos, che credo sia la dimensione di quello che a un certo punto, non so come si spiega la retina, e a un certo punto parla, vive e diventa persona, no? Quindi dialogos, per cui io tendo, anche per un interesse mio, a dire rapporti umani più che interumani, ma capisco perché siamo interessati a due cose diverse. Io dico rapporti umani per un motivo molto semplice: essendo io una bestia, non voglio dire interumani, rapporti umani, e nel Gran Sasso ce l'abbiamo fra noi lupi, orsi muli e voi, insomma. Hai capito? Quindi, no, ma dice rapporti umani, è vero, cioè in questo abbiamo un elemento che poi non viene abbastanza sottolineato. Perché? Perché uno dei motivi dell'importanza dello stare qui insieme, dell'esserci riconosciuti, accade nella vita individuale che a un certo punto si dica banalmente la prima volta che ho visto, ho subito capito, ho subito sentito. C'è probabilmente una base biologica su tutto, antropologica, cioè diventa vero, non è un'illusione. Cioè nel momento in cui ci si conosce, ci si riconosce, no? E questa è una delle forme appunto della illuminazione che viene fuori dalla retina nel momento appunto puoi vedere e ti si mette, ho imparato, in funzione tutta una serie di altre cose biologiche, no? E quindi va benissimo. E infatti una cosa che non si è abbastanza sottolineato è come nelle posizioni che conosco, intuisco, avverto di Massimo, lui si è trovato e si trova in termini storici, ambientali di questi decenni a accentuare un carattere, a difendere l'importanza dell'identità, perché era solo, gli altri non discutevano, non penetravano nella cosa, perché altrimenti, glielo dicevo l'altro giorno, vabbè, 24 settimane, io vabbè, giuro pure io, 24 settimane, però gli dicevo, diciamo attualmente, all'inizio tra 200 anni non mi importa. Certo, quindi la storicità della conoscenza, la storicità, una caratteristica dell'importanza, direi, di questo che siete, che lui ha concepito, ha messo alla luce e voi continuate a farlo, è proprio questo elemento di connessione, sarà darwinista, non darwinista, non ce ne frega nulla, di connessione, questo è importante, fra la crescita, la trasformazione, la crescita e quindi la storicità. Se tu dici 24 settimane, vuol dire che oggi, per esempio, quella è la verità assoluta scientifica, ma siccome cambia anche l'antropologia, fra 150 anni, sia per via della conoscenza, sia per via del fatto oggettivo che si trasforma biologicamente un genere, una specie animale, diciamo, fra le altre, allora sappiamo. E quindi questo dà più valore ancora alle affermazioni scientifiche in un periodo dato, in una situazione laica nella quale sappiamo che il bene, il vero di oggi, può essere divenire fra 100 o 200 anni il male di domani, se divenisse chiusura rispetto alla storicità della conoscenza. Maestro, si può dire, ho detto troppe balle. Adesso cominciamo a litigare, dunque, e precisiamo. Poi parliamo di un'altra precisazione e firme, se no qui andiamo tutti a sbattere, perché siamo in un regime peggio che fascista. Adesso sì, l'ho sentito stamattina. No, adesso però io volevo inserire la cosettina. Allora, la parola sacra, nuova, di trasformazione. Ho detto tante volte che se è circolata, è circolata per parlare soltanto di catastrofe mentale che fa la malattia mentale la peggiore. Quello non è più lui, si è trasformato, eccetera. Non è vero. Cambiare la parola e metterla su una realtà, che dici tu, di cambiamento continuo. Per cui una certa realtà attuale, domani, tra 10 anni, tra 100 anni, non è più la stessa. Questo non riguarda la realtà biologica. La realtà biologica si è costituita, non so come, non so perché, per Darwin forse lo sa, in questo certo qual modo, e ancora, sia da un punto di vista del corpo, sia da un punto di vista mentale, si deve ancora formare. perché ancora ci sono mille e mille malattie che ledono il corpo, forse addirittura non ha raggiunto nemmeno le possibilità di vita di 100 o 120 anni, e per di più, men che meno, è riuscito a realizzare la propria identità psichica, la propria identità mentale, la propria realtà, come ho detto prima. E allora di prendere e riuscire, mediante la trasformazione, a vivere sia l'uno che l'altro. Io devo eliminare la casta degli artisti, perché solo gli artisti hanno questa possibilità di far vivere questo mondo senza parola, che è il mondo delle immagini, e così via dicendo. Questo deve essere possibilità di tutti, di realizzare questa ricreazione del primo anno di vita, quando la parola non c'era, quando il cammino non c'era, quando sia la ragione, sia la religione, ha sempre negato che questo fosse la realtà umana. E a me viene l'idea invece che questa è specificatamente la realtà umana, che gli animali non hanno inconscio. Ma c'è questo strano linguaggio schizofrenico che circola, per cui dice che sotto la ragione c'è la bestia, cioè l'animale. No, sotto la ragione c'è l'artista, sotto la ragione c'è la fantasia, sotto la ragione c'è la genialità di riuscire non solo a scoprire ma anche a creare cose nuove. Ma mi hai fatto perdere un po' con questo discorso quello che volevo accentuare, anche se può essere politicamente una cosa un po' delicata, visto come siamo messi. Cioè, quando Patrignani ha parlato, venne in mente sempre il trauma infantile del 48, il trauma infantile del concordato. Ora mettermi a parlare male del comunismo forse lo facciamo dopo le elezioni. Perché però quella mostruosità che rischia di spaccarti la testa, una cosa che sta accadendo anche adesso, una teoria, una politica, un movimento sociale che ha occupato 2 miliardi di persone, aveva perlomeno l'ateismo di Stato. Nel corso e lì non si capisce come sia venuto fuori, sia, beh no, forse non lo dico, il patto Molotov von Ribbentrop, quando a quei tempi si sapeva benissimo cos'era il nazismo. Per far che? Niente. Aggressività, violenza gratuita. Per spartirsi la Polonia. Che vuol dire che la Russia, dico, gli manca il terreno? È metà del mondo. Va a prendere metà della Polonia. Che ci farà? Ma manco fosse stato il Kuwait col petrolio. Non so, no. Fa questa alleanza per spartirsi la Polonia, aumentare, allargare la cosa. E poi viene fuori che firma il concordato, è soltanto per una ragione politica? Ma Togliatti sì, era un poco di buono, però non era uno scemo. E quindi che fosse la ragione politica per restare al governo con De Gasperi non funzionava molto, perché sotto benissimo che De Gasperi, appena ottenuto il voto sul concordato, l'ha mandato a quel paese e l'ha mandato in opposizione per sempre. Allora perché ha votato? Scusami, tra l'altro quel voto Togliatti che aveva tenuto nascosto ai compagni del partito, perché aveva paura che Concetto Marchesi, se l'avesse saputo, gli armava un casotto in Giovenale. Sì. No, si preoccupò anche di dire a Giulio Andreotti, sottosegretario, che anche De Gasperi forse non doveva essere necessariamente informato, erano le 2 di pomeriggio, che alle 7 avrebbero votato contro le previsioni loro comunisti per l'articolo di costituzionalizzazione del concordato clerico-fascista, tutto qua. Quindi presente, c'erano sotto dei principi, ecco questo che dico, beh ricordo anche Bertinotti, che ha scoperto anni fa che nel fondo del marxismo, qui Patrignani, vediamo, discutiamo un pochino, c'è la violenza. C'è la violenza e magari al di là della violenza dei campi di concentramento c'è una violenza ideologica, che è questa stessa violenza o quella violenza invisibile che sarebbero certe idee, che poi ha portato il Partito Comunista ad essere il più conservatore a proposito di divorzio. A proposito. Già. E allora lì un povero ragazzotto, eccetera, che vede queste cose e si domanda cos'è o cosa non è questa storia del comunismo. E poi, studiando, si vede che come, scusate il paradosso delle parole, la religione porta avanti il massimo della favole, della religiosità, quasi che non fosse nessun progresso rispetto rispetto al mondo greco, dove c'erano un sacco di favole di Apollo, di Minerva, di Vulcano, di Venere, di Giunone, insomma tutte queste cose che i bambini, i miei nipotini si annoiano se gliele raccontano. Ce l'ha anche il cristianesimo, ce l'ha anche il cristianesimo, questo massimo di pensiero. Volete regalargli la parola astratto? Ma io direi inesistente, chiaro, con la super razionalità del comunismo. È come se lì si, senza che se ne rendano conto, si fosse determinata questa associazione comunismo-nazismo, che ha portato poi al fatto che questi casomai si sono mossi dietro, permetti, la tua, l'iniziativa di Lombardi di fare qualcosa di diverso, tenendo presente che avevano questo ideale della parola uguaglianza che deve restare. Soltanto che l'uguaglianza, ecco, che poi lo dico, non deve essere tanto nel fatto di mettersi tutti lo stesso vestito, vedi, noi siamo vestiti diversi, ma deve essere nella realtà della natura umana e l'uguaglianza che parte dalla nascita, per cui mi ha sentito ben dire che alla nascita non esiste, e l'ho detto anche al loro congresso, il maschietto e la femminuccia. Utilizzare la mia scoperta dell'istinto di morte, della fantasia di sparizione, per eliminare la realtà fisica. Alla nascita esiste soltanto un altro essere umano, poi, beato lui, diventerà o maschio o femmina, eccetera. No, beato lui, diventerà femmina o maschio. Beh, comincia a imparare un po', eh. Hai visto? La correzione. Bene, bene, bene, bene. Però, scusatemi, io ho due esigenze. Una è che noi siamo qui anche perché probabilmente da anni avvertivamo delle urgenze anche oggettive, senza riuscire a trasformarle in organizzazione di coloro che avvertono l'urgenza di essere qualcosa, di avere qualcosa. Queste sono le vere urgenze e che rischiano di saltare. Per quel che riguarda Fausto, io credo che lui l'ha un po' individuato, lui l'aveva colto questa cosa della non violenza, no? Tant'è sì, vero... però ci siamo scontrati anche sull'identità della donna. Tu l'hai difeso quando ha esaltato la signorina F, ma... di quella che fallendo il 68. Ma mi lasci difendere Fausto? Sì. È la Madonna. Ma io faccio complimenti anch'io. Sempre. No, però lì e lì non ci siamo capiti. La voglio difendere io perché appunto è noto che nel vostro dialogo c'è stato da parte tua, perché è stato riconosciuto, un apporto di riflessione sulla valenza diversa della non violenza rispetto alla moralità creatrice, creativa della ricerca della rifondazione, no? Trasformazione, rifondazione, riforma, no, tutto quanto. Benissimo. Adesso poi cos'è successo però? Lui aveva anche intuito, ricordatevi quando aveva annunciato che dal mercoledì iniziava i cappuccini, perché ci aveva chiesto a me, aveva chiesto come fate, avevo detto noi facciamo i tre cappuccini per evitare di fare subito la fine degli irlandesi che dopo 5 giorni smettevano perché se no crepavano, non avendo questa piccola cosa. E però appena lui annunciò che c'era il cappuccino, il Presidente della Repubblica lo chiamò, glielo offerse. No, ma davvero, non scherzo. Quindi la cosa non ebbe seguito. Ma perché poi è accaduto questo? E c'è il problema della storicità, delle identità, delle trasformazioni. Sì. No, no, ma parlo proprio obbediendo, 1, 2, 3, 4. Trasformazioni tutti, mentali continue. Tutti canoni, però deve essere vissuto. Se non è mentalmente e fisicamente vissuto qualcosa, a questo punto tu ti trasformi perché ti deformi, ne viene a mancare quello che tu hai auspicato, previsto, preparato di trasformazione, e viene la deformazione. Allora è venuto fuori, sì, è vero, però non l'abbiamo vissuta, no? Accetto il rimprovero sperando che non sia una condanna. E non l'abbiamo vissuta anche perché... Lui sta dicendo che occorreva la prassi politica. Certo, ma il voglio... movimento del corpo fisico. Io forse effettivamente ha ragione. Sì, ma lì... Ho mosso troppo la mente e poco il corpo. Guarda, per... come prassi politica. No, figurati, tu, io... Mi arrivano le cose, no? Una delle cose che ho imparato da bimbo dai nostri cosi era che la rivoluzione francese, laica che è, poi fanno la statua della ragione. No, ragionevolezza e non ragione, no? Quindi questo ci sono nato anch'io e quindi anche tu e l'hai elaborato. Sì, sì. Quindi, così come libertà, quanti delitti ci sono fatti in tuo nome, non solo nei salotti parigini, pure in questi romani, continuano. No, ma il vero, quello che mi importa è dire questo, è che la elaborazione teorica, che è essenziale, è fondamentale, se non è teoria della prassi, se manca questa, si va tutto a farci fottere, come la disperazione di un cardinale olandese, fiammico, che è morto importantissimo, a 93 anni mi pare, l'altro giorno, e lui aveva, gli si rimproverava la teologia della prassi. Hai capito? Pure quella non era tanto. Perfettamente d'accordo. Perché avevano paura di tutto questo. Allora il vissuto deve essere vissuto se c'è chiarezza teorica, appunto, se dico, e se c'è scelta teorica, perché non esiste solo una teoria. E allora devo dire che in che cosa ci siamo incontrati? Io ho detto la sola cosa, bene o male, Massimo, e quindi tutti noi, tutti voi, no? Criminalizzati, sta setta, sta cosa, sta fare, sta ciccia, eccetera. E vabbè, no? Alla fine quindi uno deve fare i conti, non col dialogos, non sul confronto, ma sull'affronto della negazione dell'identità, no? E della cosa, con tutti i guai che vengono fuori. Allora, è in questo che ci siamo e vi siete riconosciuti, perché questo l'abbiamo sentito. Eravate contro i froci? Eravate contro i femministi? Ah, dico, benissimo, allora è con loro che bisogna parlare. Dove stanno? Non è vero? E allora quando abbiamo fatto l'invito all'amore civile, alla nostra riunione, eccetera, tutti i compagni, accettato subito, e dico sì, ha accettato subito, con gioia, è venuto, ha detto le sue cose di ieri, come noi ripetiamo le nostre cose di ieri, e solamente però se non parli con lui, se è il demonio lui, quello che non si capisce che aveva fatto anche il povero Marco, quell'altro Bellocchio e tutti quanti, no? E a quel povero Fausto, sto demonio, chi se l'ha fatto? A Fausto, a Marco, non so quanti, pure con me, ha detto lui che sono piuttosto io che con sotto forma di Loden gli ho rotto l'anima per 20 anni, insomma. Quindi, no. Quindi diciamo che io sono il fagiolo, il fagiolo di fagioli, e lui è il pannella chi divora sarà divorato. Allora però c'è un fatto, guardate, c'è una situazione di violenza in questo momento delle quali c'è un rischio enorme, ci siamo assuefatti. Quello che noi abbiamo semplicemente trasmesso è che da quando assieme, questo Emma oggi ne era ben consapevole, è quella che l'ha commossa, non solo mossa a venire, era che quei 750.000 voti con due scomparse televisive, eravamo tutti morti e sepolti, nessuno sapeva più che c'eravamo. A me mi dicevo peccato quando lei faceva le battaglie, dico tacci i vostri, io oggi ne sto a fare più di ieri, solo non lo sapete, no? E quindi, ma lì c'è stata questa cosa comune. Da allora vi sono stati solo per i due Anno Zero e Ballarò, in queste 14, non so 24, ma 14 settimane ci sono state le settimane di questi. Praticamente avevo fatto un conto, il centro d'ascolto, mi pare adesso 351 milioni di persone, di contatti, 5 milioni per uno o due alla settimana, comunque i dati sono tutti scritti anche sul col centro d'ascolto, sono venute fuori sul clandestino, quindi guardatela perché. Ora, il problema è questo, 351 milioni di ascoltatori ai quali si è offerta la possibilità di conoscere per scegliere, deliberare. E che gli hanno dato per scegliere? Tutti e due. Poi se quell'altro, quell'abruzzese che invece fa il cane pastore con me, se una bestia fa il collo torto, elegante di salotto, è Bruno Vespa, ma sono tutti della stessa razza. L'unico problema è evitare che la gente possa conoscere, magari, perché il vizio è lo stesso, gli errori di Fagioli o gli errori di Pannella, Le Bonino e via dicendo. E a questo punto, a questi 351 milioni di persone, non è stato dato nemmeno un secondo di ascolto radicale. È la cancellazione degli anni 30, è peggio, perché poi nei telegiornali, dove Zero lo stesso, ogni tanto ci siamo per un secondo, aspetta, 6 secondi in un mese, ma in quei 6 secondi ti fanno fuori l'immagine, scelgono loro i 6 secondi. A me quando li scelgono loro c'ho la faccia più da vecchio coglione di quanto non ce l'abbia e mi fanno mettere il sonoro quando torno io. E poi vanno nel computo. Stiamo attenti, non si può scherzare di questo. Allora vi dico, per esempio, il risultato di questi 7 mesi di inedia da parte di noi cittadini, non di noi radicali, di inedia, di mancanza. Per esempio, noi che abbiamo raccolto fino a 14 milioni di firme in una occasione, oggi rischiamo assolutamente di non poterci presentare perché non ce la faremmo a raccogliere 160.000 firme divise per province. Siccome ci conosciamo, so che nel momento in cui lo sapete, già quello un grande problema è risolto sul piano del fatto che almeno fra di noi noi conosciamo le cose. Abbiamo il privilegio di conoscere anche i guai che incombono o le occasioni che ci stanno. Ma il problema è che non c'è solo del Lazio, questo problema ce l'abbiamo in Toscana, in tutta Italia, e quindi la riunione di oggi, c'è da informarvi, guardate, c'è da farsi un mazzo così, si può dire il mazzo così? Si deve fare un mazzo così, tutte e tutti, se possibile, per raccogliere le prefirme. I tavoli qua dovrebbero intanto, per avere gli indirizzi, le cose, per potersi avvisare nel momento delle firme e fra poco anche andare alle firme. È il prodotto del fatto che negli ultimi 7 mesi non un secondo è stato possibile andare a parlare da questi. E oggi io non ho, scusate, poi quell'altro simpaticissimo, come dire, Giuliano, il mio, come dire, lo chiamo lo Smilzo, il mio amico Smilzo, no? Giuliano adesso si è scatenato e via dicendo, eccetera, ma il problema non è lui. Lui è lui, è il caso di una identità che non è storica. Quindi ha capito, sembra lui dall'inizio era frustrato da adolescente e per questo era comunista col K, no? Perché era frustrato dell'inganno che gli veniva dal suo grande nonno, il mio, che adoro, Mario Ferrara, no? Liberale, liberale di uno che aveva fatto la Settimana Rossa di Ancona, no, per tenere presente poiché liberali eravamo, c'erano, eccetera. E quindi odio contro tutto quello che è libertà e responsabilità. Quindi diventa comunista in quel modo col papà che lo aiutava, perché scrisse un bel sonnetto Maurizio dicendo: ma ci tocca a noi pure, sta a lottà per sta banda dei froci, e parlava del divorzio per noi, con noi radicali, e non eravamo noi che lottavamo per lui, ma era lui che lottava per noi per il divorzio, capito, colore eccetera, e veniva fuori questo, cioè, lui se n'è andato dal partito quando hanno avuto il dubbio che il partito non fosse abbastanza proibizionista sul piano degli Spinelli. Uscirono in quel momento, e costantemente lui odia Emma. Ma sapete perché? Perché lui, quando divenne ministro, la sua aspirazione era, io lo dissi 10 anni fa, tu finché non diventerai il Rasputin d'un papa, lo sei di uno, dell'altro, lasci il partito, lo fai per Bettino, lo fai per Silvio, no, continui a farlo, lo farai per papa, ma se te va male, poi mi pare che è andata male, non sta molto contento, non gli basta, e allora oggi ce l'ha con la Emma Bonino. Perché? Quando lui era ministro, no, ma quando lui era ministro di Silvio, Berlusconi, io l'ho raccontata, lui aveva convinto Silvio a nominare o Giorgio Napolitano, attuale presidente, o un altro suo compagno, cioè comunista, perché quella mattina, e ci sono dei testimoni, Silvio, Gianni, Letta, e l'ho raccontata 1000 volte, una mattina alle 7:30 mi svegliano, io allora non avevo il telefono, Ingrao mi aveva fatto mettere il telefonino da campo per convocarmi al Parlamento, perché non avevo il telefono, avevo la televisione, avevo il telefono, eccetera. Mi suona il telefonino da campo, devo correre a Palazzo Chigi, e c'è Gianni Silvio che mi dice, Radio Radicale, io lo ripeto per la quarta volta, quinta, perché alla fine devi dirle, e mi dice: guarda, c'è un disastro, non è possibile Emma commissaria, come eravamo impegnati, ma almeno non puoi farla tu, mi è venuto qui Santer, il futuro, dicendo no, ma assolutamente no, con gli zoccoli, io credevo che dicesse la zoccola, no, ma il problema era con gli zoccoli, ma insomma, allora, e poi mi dice, guarda, se io non nomino, e ho già convocato, lui non sa nulla, qui, già convocato, a Palazzo Chigi, Giorgio Napolitano, che sta arrivando. E dico, se entra quello, tutti i giornalisti sapranno che lui entra perché l'hai convocato per comunicare e presentare il nuovo commissario. Dico, sei matto? E lui mi dice testualmente: guarda che quelli, se non faccio questo, a partire dalla settimana fuori mi mettono magari in galera mio fratello, mia madre, cioè. E dico, guarda che se però questi scoprono che tu c'hai queste paure e questo coraggio, so guai per te, E c'era Gianni Letta, Gianni, dico, senti, avvisa a Giorgio Napolitano, dirottalo, io l'ho detto, dirottalo a Montecitorio, dove gli andate a spiegare perché è Emma, come eravamo d'accordo da 5 mesi. Adesso sento dire che la cosa, il merito era di Silvio avere nominato, ma sì sì, è vero, ma in quelle condizioni è bello l'unica cosa che gli ha dato prestigio in fondo a livello internazionale come scelta di persona, è stato costretto dalla violenza pannelliana quella mattina, se no gli facevo davvero una faccia così e l'aveva sentito, con l'aiuto di sua madre. Fammi dire una arringa per la storia delle idee. Passaggio giusto di prima, era della resistenza a tutte le... Tu l'hai nominato questa violenza invisibile che è l'annullamento e le negazioni. Posso fare la domanda che se noi siamo qui, mi pare anche... Posso dire salvo io in buona salute, voi in ottima salute. Io ho un po' di bronchitella che mi hai fatto prendere il primo gennaio. Che faceva un freddo, e tu lui mezzo nudo in giro in piazza di Sedra. Ecco, a subito mezzo gradi. Nudo, capito? Sti radicali, eh? Vabbè. Non sarà perché noi abbiamo scoperto questa violenza invisibile che si chiama negazione o addirittura annullamento? Non sarà che dobbiamo gentilmente, elegantemente ricordare addirittura Emma che a Chianciano ha detto: oltre questa violenza della prassi, nella violenza che possiamo dire fisica e palese, che le donne possono ottenere tutti i diritti civili. L'hanno tenuto in Europa abbastanza, eccetera, ormai, però di fatto vengono vissute come non esistenti. Sono parole di Emma, le ricordo. Esatto. Non sarà che noi appunto godiamo qui e questi godono ottima salute perché noi abbiamo scoperto questo annullamento, che cosa significa esattamente, e magari anche la negazione, per cui certe diffamazioni, certi insulti non è che ci abbiano fatto granché. Anzi. La tua domanda, c'è una risposta proprio in queste ore, c'è Donna Binetti, che mi è simpaticissima, poi poveretta, ho l'impressione che da quando ci siamo noi si muove tanto che il cilicio forse non ce lo mette, perché è divenuta quindi più agile, curato, più viva, insomma, no? A me mi è simpaticissima, devo dire onestamente, la cosa. E oggi però ha detto, ma avete visto su Left, che è successo? Avete visto, lì c'è la cosa dell'agenda Coscioni, c'è la propaganda. Avete visto cosa viene fuori? Alzò il problema demografico, il problema Malthus, queste cose, hai capito? Ed è il punto, tu l'hai accennato all'inizio del tuo intervento prima, sto problema del concepire e non del procreare come conigli, ma nel momento, no, perché poi vogliono farci procreare come famiglie e come conigli, perché c'erano pronto la vendita nei supermercati dei conigli già belli, fatti, conditi, eccetera, perché poi ormai c'è una logica in tutto questo. Si usa e si vuole che noi diveniamo conigli, è tutto quanto. Per Haiti e per altri Haiti possibili. Passiamo ad altre domande. Allora, io ho Federico Tulli, giornalista. Che non vedo. Eccomi. Beh, in questo momento vorrei fare un'altra professione. Dunque, la domanda la farei a Marco Pannella. Martedì scorso è venuta in redazione Emma Bonino a Left. Mi è rimasta impressa una frase in particolare che ha detto, e dice: in 60 anni di partitocrazia gli italiani sono passati dall'essere cittadini a una condizione di popolo, da popolo a audience, da audience a plebe. In questo momento gli italiani sono trattati come plebe. Il percorso a ritroso che dovrebbe favorire la politica per riportarci, ricondurci a uno status di cittadini, dice la Bonino, è lungo e complesso, perché la plebe un giorno ti osanna al Colosseo, il giorno dopo ti tira i sassi. Io vorrei usare questa frase in un altro ambito, secondo me altrettanto attuale. E penso alla rivolta di Rosarno, penso più in generale alla condizione in cui vivono e lavorano gli immigrati nel nostro paese. Penso anche, ecco, è stato nominato prima, al primo gennaio, quando i radicali hanno fatto la manifestazione in difesa dei diritti degli immigrati a ottenere da parte dello Stato, entro i termini di legge, il permesso di soggiorno. No, a questo punto però non posso non pensare che insomma, ai tempi del Colosseo esisteva la plebe e un gradino sotto la plebe c'erano gli schiavi, e che quindi oggi gli schiavi sono i migranti che ahimè, lavorano in Italia nelle condizioni in cui sappiamo. Come altro definirli, se no, insomma, è gente che è costretta a lavorare in condizioni infami, con una paga indecente, con solo doveri, senza diritti, che vengono portati, caricati sui camion e deportati in altre zone agricole a seconda delle necessità dei loro caporali. Però queste sono persone che vengono in Italia per costruirsi una vita, per lavorare, quindi farsi un'identità sociale e quindi realizzare la propria identità umana. Ecco la domanda. Come deve intervenire la politica? Ci metto di sinistra perché insomma, affinché questi cittadini, affinché le rivolte coraggiose dei migranti, quindi degli schiavi, non falliscano come nella storia, per dire, sono fallite quelle di Masaniello o di Spartaco. O meglio, è utopia pensare che la politica perda la propria cecità, che è codificata in questo momento dalla legge Bossi-Fini, e comprenda che a queste persone, comprenda che va riconosciuta la cittadinanza a queste persone in quanto esseri umani. Il riconoscimento è un dovere, cioè essere riconosciuti come cittadini è un diritto di queste persone. Ed è un diritto perché il passaggio successivo appunto è l'integrazione sociale, è l'identità sociale e quindi la realizzazione della propria identità umana. Negare questo diritto significa negare l'identità umana a queste persone. Lo facevano i nazisti, lo fanno oggi quelli che dicono tolleranza zero. Ecco, grazie. Sì, ma... ringrazio molto della domanda, perché direi che la nostra storia concreta di 800 iscritti al Partito Radicale, poi 1.200, poi 5.000, cioè questi 50 anni che sono, come molti di voi conoscono, anche come entità di militanza, di contributi, è sempre stata... ha dovuto fare i conti sul fatto prima, e abbiamo avuto Riccardo evocato prima, e soprattutto Loris, che ci ha consentito con un tipografo che beveva vino e non whisky, milanese, che è stato l'autore forse di quella nostra battaglia, Enzo Sabato, perché era uno che c'era la tipografia che l'aveva ereditata e ha puntato su di noi con questa umanità di un operaio, diciamo, di lì. Se no, anche il mondo e l'Espresso erano quantomeno scettici. Voglio dire, perché allora che si diceva, ma questi sono problemi piccolo borghesi, ma l'operaio, il lavoratore, c'ha il problema della busta paga. Questi sono i problemi morali, sono una ricchezza di classe dell'altra parte, fanno parte dell'inganno liberale del diritto e dello Stato di diritto come appunto elemento vitale, come dice il liberale, per l'inerme, per l'inerte, per l'oppresso. Non c'ha bisogno del diritto, lui esercita un privilegio. Chi è al potere, no? Mi pare questo è pacifico. E tu parlavi adesso il diritti, diritti, diritti, diritti. Noi viviamo in una 60 anni, grazie per colpa del primo decennio, quello che ha distrutto le speranze di Riccardo, di Calamandrei, del Partito d'Azione, che ha in 3 anni distrutto completamente, 5, la Costituzione come era stata fatta, rimandando di due generazioni la realizzazione del referendum, delle regioni, dei voti. Un crimine. Oggi le cose di Berlusconi sono purtroppo, sono intanto il prodotto, lui è un prodotto di questa disgraziata storia antiazionista e antiliberale, di questo disastro, perché appunto è i diritti e il diritto qui da noi non conta un cazzo, è una vergogna. Cioè noi abbiamo presidenti come quelli del Senato e una tra l'altro una procura della Repubblica a Roma, dei magistrati a Gogo, ma io perché si arrabbiano con Berlusconi e non mi denunciano a me quando dico queste cose da 30 anni sulla procura della Repubblica di Roma, che è una vergogna, uno schifo, è il luogo della negazione del diritto, e così vengono fuori. E allora sì, è un diritto. Noi abbiamo perfino presentato contro e fatto votare contro il piano Brandt, che in effetti poi andò, non valeva nulla, il nostro piano sulla fame nel mondo, dal Parlamento europeo, con stanziamenti grossi, eccetera. Dentro quello c'era tutto. C'era il fatto che noi dovevamo rilanciare addirittura una politica di emigrazione, non più di poveri, diciamo, disoccupati, non eravamo più questo, ma della piccola imprenditore, del commerciante, la partita IVA in Italia, per trasferirli. Era il progetto, doveva essere finanziato, per trasferirli nel Nord Africa, nella parte sud del Mediterraneo, che poi col Nilo arrivi al centro, vabbè, tutte cose che sappiamo. Ed era una visione, e dicevamo già allora che il problema salvemignano, quello che in Italia il welfare non era welfare universale, e così come noi dicevamo che il fascismo e il comunismo erano in realtà welfare senza e contro la libertà, perché indubbiamente queste cose erano venute fuori. Allora adesso anche il welfare non era universale, non lo è. E quando mai i sindacati, appunto, tranne un po' l'UIL, che allora sul divorzio capì che era un problema di classe, sull'aborto anche, venimmo trattati anche nel 68 all'inizio come appunto piccolo borghesi estremisti, mentre noi avevamo una nozione di classe in cui sapevamo che per il borghese certe cose erano un lusso a disposizione, mentre per il non borghese, sociologicamente parlando, erano le vedove bianche, erano la distruzione, erano gli aborti a gogo, che era una realtà di classe tremenda. E quindi oggi dico questo sul problema degli immigrati: Emma ha preso posizione, siamo stati noi che prima abbiamo lanciato la cosa dei badanti e poi adesso abbiamo detto ma badanti è la marito della badante e il padrone della badante, e le battaglie le facciamo. Giù però si rifà il caporalato contro cui Fausto Gullo e dei compagni comunisti e Mancini padre, nonno, si erano mossi, appunto perché avevamo i caporalati, avevamo queste realtà nel Mezzogiorno. Si è distrutta in Italia non solo il welfare generale da parte di una gestione di classe, ma nel senso negativo del nostro welfare, contro cui noi stiamo lottando. Vogliamo che ci sia il welfare per l'emigrato, è un diritto soggettivo e oggettivo, ma allora devi organizzarti in modo diverso da come siamo stati organizzati in questi decenni, nei quali c'era il diritto del ceto operaio, praticamente siamo stati come operai l'alibi per privatizzare i profitti, per privatizzare i soldi dello Stato e i soldi nostri e socializzare le perdite, per cui appunto solo le grandi e medie industrie fino a 4 anni fa avevano riconosciuto gli ammortizzatori sociali, e noi l'abbiamo battuta, l'abbiamo fatta. Mi fai aggiungere e contribuire a questa Prego. Ricerca a livelli più profondi. Sì, è colpa sua che mi fa le domande importanti. Di cioè, lui ha parlato ben giustamente della schiavitù. Questi sono la schiavitù, sono schiavi, è la stessa cosa degli schiavi che importavano gli americani nel 700-800 in America per fargli coltivare le piantagioni di cotone. Questo era per cui poi è venuta la guerra di secessione, per questo fatto, perché erano venute fuori le macchine e quindi la manodopera non serviva, però la cosa costava molto di più, si andava verso l'industrializzazione. Io, ricordando, 2 anni fa, proprio nel confronto con Fausto Bertinotti, che è stata un'esperienza molto molto grossa e molto importante, e cioè stavamo dicendo di questa cosa, che questi erano, lo disse proprio Federico Masini, l'importazione degli schiavi. Ora, è accaduto che subito dopo quella cosa, Famiglia Cristiana partì per fare la difesa degli immigrati. Ora, quali idee c'erano dietro? C'erano le idee dell'assistenza, c'erano le idee dell'elemosina, c'erano le idee di dar da mangiare agli affamati e dar da bere agli assetati, come dice il Vangelo, eccetera, eccetera. Qui si tratta di fare altro. E qui c'è una strana cosa. Certe rivendicazioni che sono state sempre della sinistra, chiudete le porte, sono la Bonino ci rimette col Partito Democratico, è soltanto quella di aumentare da 25 euro al giorno a 50 euro al giorno. Questo non fa identità di nessuno. Restano civilmente e come diritti degli schiavi, cioè essere inferiori in ogni modo. No, bisogna, oltre questo, naturalmente, se c'è la sofferenza fisica, questa va parata. Però bisogna anche scoprire questa strana alleanza tra cristianesimo e comunismo. Come ben noto in tutta la stampa e certe cose, che ci sono stranamente degli atei molto clericali e degli anticlericali molto cristiani. Tutta Rifondazione era piena di un cristianesimo, di questo ideale del Cristo primitivo, che sarebbe stato, come fanno a sapere quello che è stato, non l'ho mai capito, sarebbe stata una cosa ideale, che era quello dell'amore. Ma l'amore era soltanto assistenza per eliminare, togliere o no, alleviare, non avevano il concetto scientifico di togliere la sofferenza fisica. Mentre, e qui non bisogna cascare in questa cosa qui, altrimenti questo livello di padrone e schiavo resterà sempre. E su questo livello l'andrangheta non si sconfigge. Cioè, ti incalzo un po'. Ti incalzo perché tu hai scritto: la libertà dell'uomo è l'obbligo di essere esseri umani. E Emma Bonino ci ha detto pochi giorni fa che forse intanto dovrebbe cambiare il messaggio, cioè il fenomeno dell'immigrazione è destinato a vivere e a intensificarsi nella nostra società, cioè deve cambiare l'idea. Io cito nella misura in cui le donne si diventano sempre più libere e più emancipate. No, ma l'altra sera vedevo Anno Zero e c'era un'intervista, c'era il giornalista lì a Rosarno che chiedeva a una persona perché non va via, la uccidono se lei rimane qui, ad uno dei raccoglitori di colore, e lui ha risposto: ma io no, non vado via, io non ho casa, non ho lavoro, non ho soldi, non ho amore, è meglio morire. Cioè, nel senso, tutta l'umanità, c'è un discorso proprio di negazione della diversità, è come se loro non sono umani. Ma cioè, forse è un criterio vecchio questo dell'amore, e si dice sempre che il Nuovo Testamento è quello che è giunto: ama il prossimo tuo come te stesso, rispetto al Vecchio Testamento in cui c'è il Dio giudice della giustizia, della vendetta, della punizione, dell'autorità assoluta del super padre, e poi anche della famiglia. Però nei tempi in cui le cose cambiano, non sarà che questo idea dell'amore. Ma certamente è necessario, certamente se io vedo una persona che è affamata e lo porto a cena, ma è quello l'amore per il prossimo? O ama il prossimo tuo significa dargli un'identità simile, per non dire uguale alla tua, che sei, hai fatto una vita più fortunata. Questo nell'assistenza di famiglia cristiana poi approvata dal Vaticano di aiutare, non c'è quello di dare, perché forse hanno capito o sentito quello che abbiamo detto. Questo significa che le donne sono libere di fare o non fare i figli che vogliono, di fare carriera nell'industria, nell'insegnamento, nella cultura, eccetera, eccetera, e questa identità di donna distruggerebbe l'Immacolata Concezione. Altro intervento di Paolo Fiorinastro, psichiatra e docente alla Sapienza di Roma. Grazie. Ecco, sulla distruzione dell'Immacolata Concezione non è proprio semplicissimo. Devo dire, prima di tutto, volevo dichiarare il piacere di stare qua. Cioè, all'inizio sentire Emma Bonino dire non c'è politica senza cultura, così mi ha dato questa sensazione che questo è il posto dove voglio stare e dove posso stare, soprattutto per anche la storia che caratterizza, o la mia storia, o molti di questi, di noi che siamo qua stamattina. Volevo fare una domanda piccolissima a Massimo Fagioni. La domanda si lega un po' alla storia. Cioè, da una parte c'è stata e c'è una realtà sociale piena di contraddizioni, piena di violenze, come state appunto sottolineando. E dall'altra c'è la storia sua e, da un certo momento in poi, la storia che abbiamo, il percorso che abbiamo fatto insieme. La storia sua è la storia di un medico che, come molti oggi, insomma, antesignano addirittura, se ne va gira l'Italia, se ne va all'estero, cerca di fare la sua formazione e la sua ricerca. E poi un altro pezzo di storia che facciamo insieme, tutta centrata su un percorso medico, di cura e di ricerca. Un percorso che esita in questa, diciamo, caratterizzazione, in ciò che ci caratterizza è questa idea che il pensiero umano nasce dalla biologia. Quindi abbiamo fatto un percorso che è un percorso sì di cura, ma che è un percorso molto teorico, molto culturale, cioè è un percorso che si è caratterizzato, se vogliamo, apparentemente fuori dalle contraddizioni della società. Poi a un certo punto, come ricordava pure prima Pannella, tu hai cominciato a muoverti, sei uscito, sei andato tu, prima di tutti noi se vogliamo, ai convegni, sei andato al Capranichetta diversi anni fa e hai cominciato anche tutto il percorso prima con Fausto Bertinotti. Allora la domanda è che cosa è successo nel percorso di ricerca, di cura e di ricerca, prima personale e poi insieme con tutti noi dell'analisi collettiva, che ti ha spinto a cercare di mettere insieme questa prassi medica con una prassi politica. Grazie. Forse devo chiedere al direttore editoriale, magari anche al direttore responsabile, di darmi altri 200 numeri di Left, perché si vede che quello che ho raccontato ancora non è sufficiente. Ma ho raccontato che è una storia che potrebbe sembrare sentimentale, storia di una faccenda per cui alla preadolescenza o alla prima adolescenza io ho vissuto una storia d'avventura alla Sandokan, al Corsaro Nero, al Corsaro Rosso, con due comunisti ortodossi. Ma veramente c'era anche un terzo che era il padre di una bella ragazza che mi mostrava un po' le cosce quando ricamava. Per ogni modo, soprattutto erano questi, perché erano questi che, con cui facevo la guerra, a mio modo ovviamente, alle squadre nazifasciste. Questo l'ho sempre ripetuto. Poi sono successe queste cose che vi dicevo, dal patto Molotov, questa strana alleanza che mi lasciava perplesso, forse è la mente mia che non funziona, e al fatto del concordato e così via dicendo, per non contare la svolta di Salerno di Togliatti del 44, per cui era necessario politicamente l'alleanza con i cattolici, perché l'Italia era un paese cattolico, tradizione cattolica, quindi se dovevamo lavorare per andare al potere eccetera eccetera, visto che poi la Russia dell'Italia se l'era fregata, quindi l'ha lasciata agli americani, bisogna fare questa proposizione. Ma lì evidentemente ho cominciato a pensare, anche per ragioni e fatti personali, che questa era la manifestazione evidente della mente, e sotto ci doveva essere qualche altra cosa. A me non convinceva affatto quello che ho detto prima, le ragioni politiche dell'approvazione del concordato. Mi sa che qui sotto c'è qualche altra cosa. E come poi è andato a finire che quella normale, ecco, e qui dopo ne faremo un'altra riunione, violenza dei partigiani che sparavano e dovevano sparare, non potevano fare i non violenti di fronte alle squadracce fasciste. Mi hai menato? Lì non ci poteva. C'era qualche altra cosa, che era appunto una violenza ideologica, che si era manifestata in quel modo. Però appunto, sentito, e qui c'è proprio che irrazionalmente, come era stata ovviamente un'avventura assolutamente irrazionale, perché se fosse stato minimamente razionale mi sarei nascosto nel fienile, insomma non sarei andato a correre per i campi in mezzo alle mitragliatrici e alle cannonate e ai bombardamenti, perché era un po' da tutte le parti. Sì, no, ma invece incosciente, proprio incosciente, era tutto molto divertente. Poi questi erano simpaticissimi, e il comunismo aveva questa immagine idealissima di un mondo nuovo, di qualche cosa di straordinario, un'utopia. Le utopie mi sono sempre piaciute. Però dopo, passato qualche anno, sono andato invece che verso l'azione, la prassi, diciamo pure politica, verso la riflessione in me stesso e nella realtà nascosta degli altri. Finché è sfociato, come hai detto tu, in questa idea precisa qui, prima bisogna fare il medico. Perché qui c'è da... forse quella volta la parola trasformare... era troppo grossa, cambiare la realtà mentale umana. Le operazioni chirurgiche riuscivano, sì, erano arrivati gli antibiotici, insomma la cura c'era nel corpo, e dove non c'era era nella mente, e qui appunto è nella mente, e nella mente non c'era. Perché non c'era? Non c'era perché c'era l'Immacolata Concezione. L'unico, non so se dire essere, non so chi sia, senza peccato originale, sarebbe sta Madonna. Mi vengono le Madonne quando sento queste cose. Significa che tutti gli altri 7 miliardi di persone nascono per eredità il peccato originale che sta nei geni, nei cromosomi. Cos'è sta cazzata? Come si fa ad arrivare a questa violenza? Per cui le favole greche erano molto più simpatiche, con quel Giove puttaniere, dico, mi dici niente? Beh, vabbè, molto meglio. E quindi lì la ricerca, eccetera, sulla realtà umana, e tu lo sai. E poi le cose che mi interessavano di più era che è sta malattia mentale. Veniva fuori una cosa del genere, e malattia organica, non c'è, no, è malattia organica. E se è la malattia dei rapporti? Umani, va bene? Umani. E allora affrontiamo i rapporti umani. Cosa si muove? Si muove soltanto la ragione? No, non mi funziona questa cosa. La ragione si muoverà nel rapporto con la natura, perché certamente bisogna sfruttarla, eccetera, per la sopravvivenza, per stare bene, eccetera. Ma nel rapporto umano sta ragione non funziona, perché uno che adopera l'altro essere umano razionalmente fa uno schiavo, si serve dell'essere umano. Ma questo me l'hanno raccontato le donne. Ma tu ti stai servendo di me? Ma mi sa che hai ragione, per capire meglio come andavano le cose nella mente inconscia. Finché fatta la cosa mi sono dedicato completamente a vedere questo che c'era nel fondo, eccetera. Adesso, siamo arrivati a, dopo tanti anni, poi c'è questo gran mistero di voi. Perché queste migliaia e migliaia e migliaia di persone, chissà quante, per tutte quelle che vengono, sì, sono già migliaia. Se consideriamo 35 anni, sono decine di migliaia che sono venute a farsi interpretare i sogni. Che vuol dire interpretare i sogni? Non sarà il perseguimento di quella trasformazione mentale, non biologica. La struttura biologica va sempre conservata. Ho fatto medicina, per cui se si guasta va rimessa a posto, come era prima. Quindi ripristino dello stato precedente, quasi fosse istinto di morte che ripristino lo stato precedente. Nella mente, sì, si tratta di ripristinare lo stato precedente, ma si tratta di ricreare quello che dicevo. Ma è possibile che noi ci abbiamo dentro il peccato originale? Che ci abbiamo dentro un gallo nello stomaco? La bestia dentro di noi? E questo poi è venuto questa grande tragedia, non mi ricordo esattamente di quale anno, per cui già la religione la vedevo benissimo, che proprio non era, quindi andavo d'accordo con i comunisti, la religione no, l'ateismo era obbligatorio. Sì, va molto bene in questa maniera, ma la ragione, il comunismo, già, non vuole la religione, non vuole le credenze, i dommi, perseguirebbe la libertà, ma perché non considera affatto questa realtà che sta sotto? Era facile, forse non era facile, ma insomma ci ho messo poco tempo a considerare che era una cosa veramente nazista questo di considerare la malattia come malattia organica, perché faceva tutto una massa di persone sottosviluppate, una massa di persone di esseri inferiori, quindi che andavano appunto assistite, nutrite, abbeverate e basta, non c'era altro, no? E perché questi non devono diventare come me, che ero sano? Beh sì, io non avevo quei problemi, dico perché io non ce l'ho e lui ce l'ha. È così, la ricerca del rapporto umano. E la ricerca del rapporto umano ha voluto dire che sì, c'è un rapporto sociale, o anche di amicizia, in cui però in fondo c'è una bella coltre di indifferenza nei riguardi dell'altro. Il rapporto più profondo, l'amore per gli altri esseri umani, si esplica nell'irrazionale. Pensate un po', di notte, nel sonno. E se noi riusciamo a copiare questi diavolacci maledetti artisti che riescono a portare il pensiero senza parola, di immagine, al nostro comportamento quotidiano, vedremo che poi nel privato noi riusciamo a realizzare la nostra identità. Che poi, senza accusare il pubblico e la prassi politica di non farla, ma insomma, quante volte me ne è, possiamo utilizzarla anche nella prassi politica. Cioè realizzare un'immagine interiore, esatto, che ha dei poteri che la ragione non ha, che la considerazione dei problemi pratici non ha. Perché soltanto con questa fantasia si può distinguere, perché sennò come si fa a dire? Ma come? I cristiani non fanno altro che dire... Ma considerate i cosi esseri umani, gli immigrati, eccetera, il Papa in continuazione. Come si fa a capire questa cosa qui? Poi dice che hanno il peccato originale. Gli danno da mangiare e da bere, ma non gli danno l'identità umana. Esatto. E la cosa deve essere tanto grossa che io mi sono sempre chiesto, perché prima c'era tutto un orientamento politico della Chiesa, per cui gli immigrati non li volevano perché al 90% non erano cristiani. Adesso hanno superato questa cosa, non gli importa niente se sono musulmani, perché l'importante è prendere questa idea che questi sono l'avvenire, sono l'avvenire di una società evoluta che va incontro alla denatalità, in cui le donne realizzano una libera identità mentale lontana dal peccato originale e dall'inconscio perverso, sanno passare dal sonno alla veglia e dalla veglia al sonno. Che altro volevi sapere? C'è un ultimo intervento di Paolo Izzo, se vuole intervenire. Non so se è una domanda o una considerazione, e si collega a quello che ha detto il professor Fiorinastro, in qualche modo, perché ho sempre ritenuto che la teoria di Fagioli, oltre al fatto di far bene alla società, perché è una teoria che cura e fa guarire la gente dalla malattia mentale, questo già di per sé fa bene, ma l'ho sempre considerata anche una prassi politica, perché da essa possono discendere le interpretazioni e le possibilità di motivare anche leggi e percorsi politici, come appunto si parla dell'aborto, si parla degli immigrati, si parla di tutte queste cose che hanno attinenza e possono essere spiegate con la teoria di Fagioli. Però questo è un ringraziamento ai radicali di accorgersi di qualcosa di questo tipo, e anche una piccola rivendicazione rispetto al fatto che i Quaderni Radicali se ne sono accorti dal 99, quando hanno iniziato a ospitare incursioni fagioliste, si può dire, nonché poi le interviste a Fagioli, non ultima quella che dà il titolo a questo convegno. Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire oppure... Se abbiamo ancora 10 minuti. Vuole intervenire? Va bene. No. No, centriamo magari questo che ha detto e riconosciamo a questo giovincello che il merito di questo interesse della politica, dei radicali, per questa astrusissima, nuovissima, quindi difficile da comprendere, teoria sulla realtà umana che supera qualche migliaio di anni tra la ragione greca e la Bibbia, è merito del giovincello Pannella. Però in effetti però, mi fate pagare qualche cosa, se questo lo dice il maestro, può darsi che sia un cattivo maestro, però un irrazionale che viene fuori, è che se sto pensando, questo con lui mi ha provocato a rivivere tutte le storie dei 20 anni, dei 16 anni, cui non ci avevo più pensato, ormai preso, ucciso da questa identità professionale di fare lo psichiatra. Cioè, no, così ho ripensato a tutte queste cose che quando se ne andava a passeggio per Fabriano sui San Pietrini. Vabbè. Eravate 3 votanti radicali a Fabriano. Guglielmo Ottoni, Maria Mariani e Massimo Fagioli. Ecco. Ma guarda, forse ho il dovere, credo, ma comunque il piacere c'è, non saprei come non dirvelo. Credo che nei prossimi giorni noi dobbiamo tradurre in forme attuali forse l'inverno più duro e più grave dei nostri 50 o 60 anni di vita. Dobbiamo farlo perché non è solo e non è innanzitutto un problema nostro. Abbiamo una situazione nella quale lo sentiamo, ma ci siamo assuefatti, la realtà statuale e sociale nella quale viviamo è pericolosa. La stella gialla l'avevamo messo come monito, stiamo attenti. La stella gialla, quando è venuta fuori, era troppo tardi. Però scusa, ed il mio era monoto. Allora volevo solo dire quali erano le tre punti del Satyagraha, che è emersione di una verità, di un vero. Il primo credo che sia di una importanza fondamentale, tanto che può sembrare astratta. No, si tratta della verità di cronaca, non pretendo la verità maiuscola, sul come e perché il mondo ha conosciuto la guerra in Iraq. Noi, da antipacifisti, quali siamo sempre stati, come gandhiani non violenti, Gandhi si è sempre impegnato nelle tre occasioni della sua vita nella quale ha dovuto prendere o no parte e posizione in una guerra, tutte e tre le volte si è assunto la responsabilità di assumere una posizione e non di eluderla, no? Allora, il problema è stato molto semplice e condiziona il momento attuale del mondo la verità di cronaca che noi abbiamo lungamente ricostruito e documentato, riteniamo tale, è semplice. Il 18 marzo 2003, con 8 giorni di ritardo su quello che lui riteneva necessario e prudente, Bush fa un falso ultimatum a Saddam perché dice: entro 48 ore tu devi andare via in esilio. Cioè, questo no, messo così lui non poteva, significava semplicemente si faceva ammazzare. L'esilio era un esilio protetto. Quindi lui scende con la complicità di Blair, davvero inaudita, ma torno a dire tutto questo è documentato, scende in guerra, scatena la guerra contro la pace, la liberazione dell'Iraq che avevamo conquistato con la decisione acclarata di Saddam di dimettersi e andarsene. Ecco come nasce quello che ci ha fatto passare dall'Occidente e la democrazia come arma assoluta, sì, antropologica. Il Presidente vorrebbe chiudere. Adesso, se mi apri questo discorso sulla politica americana in Medio Oriente. Sono gli obiettivi per i quali fra 3 giorni mi direte di smettere. L'obiettivo è questo di, certamente, considerare la tragedia che c'è in giro, eccetera, no, ma politica e sociale. Non ci sono dubbi, ma non dimenticate questo che sta succedendo in questi giorni, che dobbiamo portare avanti per questi 2 mesi fino alle elezioni. Ma sto... Che naturalmente fate tutte le garanzie e grattatevi quello che vi pare, ma oltre la speranza di un successo elettorale c'è la certezza che abbiamo proposto non soltanto in Italia un'identità di radicali e di non radicali, per dire, unica, che propone appunto un modo di far politica, di andare a fare la presidenza, per cui la piccola regione del Lazio diventerà una bandiera, una cosa, se dovesse accadere che questa sinistra, nella sinistra non ci sia soltanto un'alleanza elettorale, ma ci sia un'unificazione per fare la ricerca, è quello che diceva la Emma. Bisogna scoprire che significa essere di sinistra. Io continuo a dire, quindi, no, c'è un problema. Siccome noi riteniamo di avere i documenti, li abbiamo messi anche in internet, via dicendo, di questo fatto, che è una responsabilità penale di diritto internazionale e di diritto interno, tra le altre cose voglio solo dirlo en passant, ma non c'è solo Blair, c'è anche il capo del governo italiano che si è assunto le stesse responsabilità di quello che, per quel che riguarda Blair e Bush, noi diciamo il tradimento del giuramento rispetto al proprio paese e anche di altri fatti. Quindi questo perché venga fuori. In qualche modo noi abbiamo adesso, in Inghilterra stanno facendo una commissione per, ma c'è un ma. Questa cosa però potrà rendere pubbliche i risultati solo fra un anno. Comunque speriamo da radicali di riuscire però a socializzare questa cosa, perché in Italia e a livello internazionale è necessario conquistare questa verità. La seconda, vedete quindi letteralmente gli obiettivi del Satyagraha, è accertamento contro la menzogna di una possibile verità. Seconda questione è conoscere la verità attraverso la comunità internazionale, dovrebbe, la verità fra le trattative fra Pechino e il Dalai Lama. Mi pare giusto. Da una parte si dice lui vuole, insomma lo sapete, quindi credo che diventa un elemento di verità da accertare. Il secondo obiettivo. Il terzo, e mi fermo, ce ne sono altri, ma il terzo è uno semplice. Quando noi riteniamo che la giustizia, prima del carcere, 11 milioni di processi riguardano un terzo del nostro paese e sono in molti casi sofferenze atroci, anni, soprattutto quando si è smuniti culturalmente o socialmente per poter seguire le cose. Ma questo ha come sua, direi, conseguenza la disumana, intollerabile condizione carceraria che è contro qualsiasi tipo di legalità. Quindi su questo noi riteniamo che denunceremo anche alle autorità europee e internazionali la responsabilità dei governi italiani, perché la via, il mezzo per superare questo in un anno o due, mentre è una tragedia, con, lo vedete, morti, assassini, è qualcosa che il degrado. Allora lo faremo anche su Roma, sul Lazio, ma il problema è che questa battaglia l'abbiamo potuta adesso ingaggiare sul Lazio perché grazie alla lotta fatta e sostenuta poi da tanti di voi anche alle europee, no? Così. Grazie a quella noi riteniamo di potere e dovere adesso sottolineare che se una cosa è intollerabile non può essere tollerata, semplicemente questo. Abbiamo gli strumenti, quindi se comincerà a organizzarsi un Satyagraha, il più grave, lo ripeto, di quello che abbiamo vissuto in 50 anni, il più ambizioso anche, e il più necessario, non vi stupite, e soprattutto, come dice Massimo, poi non dimentichiamo, per esempio, che il problema delle firme, ma non solo nel Lazio, le firme ovunque, è una cosa quasi impossibile perché non c'è l'informazione. Poi tutto questo ve lo racconteremo e cercheremo di formarlo. Benissimo. Ci sono Ovviamente dei ringraziamenti da fare, il primo è al Teatro Eliseo, al padrone di casa, Massimo Monaci, che ci ospita ogni volta amorevolmente, e all'Associazione Culturale Amore Psiche, a Quaderni Radicali, all'Asino d'Oro con Matteo Fago, e vorrei chiudere citando una risposta di Marco Pannella nel suo libro Intervista, che mi aveva colpito e che secondo me riporta un po' a quello che il professor Fagioli ci diceva, l'importanza di oggi. Pannella risponde: il dialogo è tra persone che non condividono tutto, sintesi è altra cosa, la sintesi è una profonda trattativa. Il problema, casomai, è quello di concepire insieme, così che diventi tu stesso terzo. Superare le parzialità, non una diversa spartizione del vecchio, non raschiare il fondo della botte consumata del vecchio possibile, ma creare un nuovo possibile, appunto quello che ieri era impossibile. Ecco, forse oggi abbiamo messo un sassolino in questa direzione. Mi sembra che potete anche firmare qui, se non lo avete già fatto. Grazie. Sono le 13:22, così si chiude questa assemblea, questo incontro che si è svolto in un teatro di Roma, il Teatro Eliseo. Massimo Fagioli, Marco Pannella, all'inizio anche un intervento di Emma Bonino, Il potere della non violenza, la politica per cambiare, questo è il titolo di questo incontro che vi abbiamo fatto ascoltare in diretta. Non abbiamo avuto il tempo oggi, visto che appunto ci siamo subito collegati con questa assemblea, di segnalarvi la giornata e gli avvenimenti che seguiremo. Oggi intanto vi diciamo che alle 14 c'è il notiziario e alle 14:30 c'è il Maratoneta, la trasmissione dell'associazione Luca Coscioni, che viene onda ogni sabato a quell'ora. Oggi pomeriggio ci occuperemo da una parte di riforme di Parlamento, con un convegno organizzato dalla Camera dei Deputati qualche giorno fa, e dall'altra di professioni e di merito, con un altro convegno organizzato dalla Fondazione Einaudi, che ha visto anche la partecipazione di Marco Cappato, il segretario dell'associazione Coscioni. Vi ricordiamo